Tutti pazzi per la notte dei publivori. Vedi, non ci avevo capito niente oggi. Io ho fatto una trasmissione questa mattina di un'ora dicendo che la pubblicità è legata alla felicità. E invece legata alla comicità, ridono tutti. La notte dei publivori è legata al concetto di comico, legato al pubblicitario. Il consumo messo come qualcosa di comico, qualcosa che ci toglie l'idea che il consumo sia trasgressione, il consumo sia peccato, il consumo sia qualcosa di cui ci si debba sentire in colpa. Se fa ridere, se comico è lecito, è permesso. Beh, finalmente siamo arrivati alla tanto annunciata notte dei publivori. Notte dei publivori per chi sta in questo momento divorando pubblicità al Teatro degli Arcimboldi. Notte degli osservatori, dei voyeur, dei publivori, che ci piace guardare gli altri mangiare, e come quegli anoressici che stanno in un angolo e guardano schifati coloro che si abboffano, e loro lo sentono con senso di colpa, come qualcosa che sta ledendo la loro intimità. Beh, noi in questo momento, in totale astenia, in totale astinenza, stiamo ad ascoltare la meravigliosa collega Marta Cagnola, che in questo momento, vestita da cioccolatino, è al centro dei palpitanti publivori. Marta, buonasera. Buonasera, lo sapevo che ti piaceva la mousse da cioccolatino, l'ho scelta per te e sono passata dalla radio apposta per fartela vedere prima di venire al Teatro degli Arcimboldi. Questa frase è molto ambigua, non la ripetere. Ma guarda, devo averne infilate 3 o 4 a fila. Ne stai aggiungendo altre, guarda. Però te lo lasciamo andare. Te lo lasciamo andare, visto che stasera dobbiamo parlare di qualcosa di comico. Devo dire che lo spirito comico è molto lontano dalla mia natura meditabonda, triste. Io sono una persona molto addolorata spesso, e quindi una volta tanto mi sforzerò ad essere comico. Tu dove ti trovi esattamente? Così diamo anche ragione al fatto che te in questo momento stiamo entrambi al microfono. Stiamo entrambi al microfono, stiamo entrambi a Milano, ma siamo in due luoghi diversi, perché io sono appunto al Teatro degli Arcimboldi, che per chi non conoscesse Milano, insomma, è un po' a nord, bisogna raggiungerlo con un po' di nebbiolina questa sera, ma lo stanno raggiungendo in molti, perché io sono praticamente affacciata a una sorta di balconata e controllo chi sta arrivando, sto cercando di scrutare le facce di questi publivori. Senti, ma chi sono? Io so, ho saputo per indiscrezioni, che chi ha avuto la fortuna di nascere nell'anno 1980 questa sera entrerà gratuitamente, perché c'è questo accostamento fra i trentenni e fortunati, ormai sono già gente grande, già con un piede nella fossa, in realtà già pieni di pensieri, però questa sera sono come dei ragazzini che festeggiano i 30 anni della notte dei publivori. Perché anche la notte dei publivori festeggia 30 anni. Poi devo dirti che però, dai, guardando la pubblicità siamo tutti più giovani. Anche noi cresciuti con Carosello. Beh, io no, hai ragione, non devo dire la mia età. Noi che per quasi abbiamo toccato Carosello, tu Marta, diciamo così. Non a caso sei in questo momento al Teatro degli Arcimboldi, perché sei praticamente una fedele publivora dall'inizio, dalle prime edizioni tu le hai seguite tutte, quando ancora si faceva a Parigi. Per puro caso io posso dirti di aver incontrato la notte dei publivori, ed ero molto piccola, non ti dico quanti anni avevo, ma ero veramente molto piccola, perché alla fine degli anni Ottanta la trasmettevano in televisione. Una notte, un sabato notte, lo dedicavano a questa notte dei publivori, e io avevo registrato una videocassetta e da lì sono impazzita, sono diventata una publivora anch'io. Ma tanto piccola non eri, se ti era permesso di stare a guardare la televisione alzata eri già maggiorenne sicuramente. No, posso dirlo, era il 1987, avevo appena compiuto 13 anni, basta, ho fatto camminare. È ancora una pupetta. Senti, mi dai un attimo il sentore e mi fai vedere chi c'ha intorno? Io non me li riesco a immaginare, questi publivori, cioè persone che passino una nottata a guardare spot pubblicitari di cui gran parte già conoscono l'esistenza, che hanno questo piacere sottile, io apprezzo sempre i ricercatori di piaceri alternativi, di starsi in una notte chiusi dentro una sala a guardare spot pubblicitari. Potresti allucinarmi il publivoro medio, come è fatto, come è costruito? È un trentenne, abbiamo già capito. Ma guarda, adesso io li sto ancora un po' guardando da lontano perché stanno arrivando, è ancora un po' presto perché la notte sta per iniziare, e così diamo anche l'indicazione tecnica, perché insomma così chi volesse arrivare al Teatro degli Arcimboldi può farlo. Stanno ancora arrivando i publivori, io ti posso dire che sì, mi sembra veramente il regno dei trentenni, dei 30-40enni, probabilmente perché davvero noi siamo quelli cresciuti a cavallo tra dopo Carosello, Tutti a Nanna e i primi spot delle televisioni commerciali. Ecco, diciamo, il grande discrimine, la grande linea è proprio questa. Noi questa mattina abbiamo iniziato da quello che era il momento storico in cui c'era il Big Bang della pubblicità televisiva in Italia. Carosello, che è un ricordo carezzevole, tenero, dolce, legato alla famiglia, legato alla nostalgia di quella bella, sana televisione in bianco e nero. C'era il mago Zurlì, c'era il buon Bernabei che faceva in modo che fossimo tutti buoni come Chierichetti. Poi improvvisamente, negli anni Ottanta, la televisione ha cominciato a avere i gerbi di quelli che tutti considerano i momenti della decadenza profonda del nostro paese. La televisione ha cominciato a darsi alla pubblicità legata appunto e infilata in maniera per qualcuno impropria dentro la programmazione stessa. Programma televisivo e pubblicità sono diventati una cosa sola, anzi sono diventati due facce di uno stesso momento di intrattenimento. Io questa mattina avevo una simpatica e cara ospite in studio che ho ritrascinato anche questa notte a farmi compagnia, perché avevamo lasciato ancora molti discorsi in sospeso. È Paolo Napolitani, che è copywriter, direttore creativo di lunghissima esperienza, ha ideato non so quante pubblicità e ci ha molto aiutato questa mattina ad orientarci nel momento, diciamo, della preistoria della pubblicità. Sei d'accordo, Paola, che negli anni Ottanta comincia a avvicinarsi un modello di pubblicità che assomiglia molto di più a quella di cui stiamo fuorendo adesso? Sì, è vero, ma soprattutto è vero perché è diventato da spettacolo a momento in cui la pubblicità doveva ottenere dei risultati, per cui si è cominciato a parlare di quanto vende un prodotto, quanto vende una pubblicità, e c'è stata l'esigenza, proprio in quegli anni lì, di valutare. È diventato una professione per noi che la dovevamo inventare. Ma prima non lo era, prima cos'è stato? Un'attività? Prima, da quello che mi hanno raccontato, perché io ho cominciato in quegli anni, erano degli amatori, e quelle che voi citate sempre come i caroselli, gli spettacoli, le animazioni, quelle bellissime tipo la Zanzara, la Bialetti, nascevano da persone che in quel momento magari sperimentavano anche i cartoni animati e intanto usavano come gli interessava quasi più il cartone animato che non quello che stavano per rappresentare. Con gli anni Ottanta si è cominciati a capire che vendeva la pubblicità, e dopo di che sono nati, ai noi, gli istituti di ricerca. Non trovi sia paradossale che noi abbiamo ben fissa nella nostra memoria, anche più che generazionale, non soltanto i cinquantenni ma anche le giovani generazioni, internet è stato il grande resumatore delle pubblicità di Carosello, ci sono tanti siti, attraverso YouTube vengono riproposti continuamente. La pubblicità che non era fatta professionalmente, allora erano grandi sceneggiatori del cinema, anche scrittori, anche grandi poeti della nostra letteratura, magari un po' per arrotondare, un po' perché era la Rai nascente, dava lavoro ai grandi talenti, si occupavano di pubblicità, anche grandi attori, grandissimi registi. La pubblicità di Carosello ha dietro una grande scuola, però ancora non avevano capito che quello era un lavoro, che quello produceva reddito. Noi ci ricordiamo quelle, invece sono un po' più transeunte nella nostra memoria quelle più recenti. È vero, ed sono poi quelle che, come dicevi tu, piacciono di più ai ragazzi oggi. Questa mattina abbiamo vigliaccamente e miseramente segato un ascoltatore a cui ridiamo una seconda chance, Luigi da Milano. Sì, salve, buonasera a tutti. Io ti ho segato questa mattina perché ero sulla sigla, se no pago una salata multa, però tu ci stavi raccontando una storia interessante legata alla pubblicità, alla tua esperienza personale. Ma direi che era legata appunto alla pubblicità di una... Ah, scusami se ti interrompo, mi sono dimenticato di dirlo, 800240024, io spero che le persone che ascoltano in questo momento, pensando di ascoltare le varie repliche della trasmissione, invece questa è una diretta, partecipate perché è il momento giusto, stando voi nel calore della vostra casetta, circondate dai beni di consumo che tanto vi danno tranquillità e sicurezza e giustificano il vostro ogni mattina uscire di casa bestemmiando e guadagnandovi con il sudore della fronte quello che in questo momento godete lecitamente, beh, telefonate e diteci il vostro punto di vista, quale pubblicità vi ha fortemente colpito e delle cose che circondate, cui affondate le fauci in questo momento, di cui vi siete rivestiti, che vi danno quel senso di possesso, di calore e tranquillità, quante sono istigate da uno spot pubblicitario? Riprendiamo con lei, forza, Luigi. Beh, allora, riguardo me è un qualche cosa che risale ormai a 50 anni fa, era la pubblicità di una polvere da tavola, d'acqua, perché l'acqua minerale con le bollicine non esisteva. Sì, però si chiamavano polveri da tavola, in effetti me le ricordo anch'io, era un grande lusso farsi l'acqua finta con le bollicine. Esatto. E niente, io ero il bambino protagonista della parte finale dove versavo ad occhi bendati la bustina con questa polvere monouso, monodose. Sì, che era già un passo avanti, io ricordo, guarda, ero un grande appassionato. Le prime bustine per acqua minerale frizzante, perché era un sintomo di lusso. Qua non esisteva l'acqua minerale, bisogna andare alle terme e chi c'aveva i soldi per andarci. C'erano due bustine, la prima, non dico la marca perché non voglio incorrere in rigori, era una famosa bustina che c'era una azzurra e una rossa. Prima si mette l'azzurra, poi velocemente, bisogna dargli una agitatina, si mette quella rossa e si chiudeva, perché sennò esplodeva. E il nostro divertimento era farla esplodere. Infatti. Poi vennero le famose bustine monouso, che erano, diciamo, la Rolls Royce delle acque da tavola. E lei pubblicizzava quelle. Siamo passo avanti, tra l'altro. E niente, versavo questa ad occhi bendati dicendo... Dicendo, volevi dire, scusami, Paola Napolitani, poi lo ripigliamo. Una domanda. Lo riprendiamo. Tu le ricordi, sì, naturalmente, le bustine? Quelle me le come ricordo, consumatrice, sì. Non come pubblicitaria. Sì, forse un po' meno. Ma sei d'accordo che era l'idea, visto che questa mattina abbiamo parlato di felicità, adesso sì, parliamo di comicità. Mia nonna le usava, però, noi in casa no. No, beh, tu, padre non tu sei molto più giovane, invece io l'usavo. No, era la nostra luce. Mettiti davanti al microfono in asse perfetto, se no tua voce arriva male. Ecco. Diciamo, fra i vari elementi del boom economico c'è questa della bustina. La bustina ricostruiva la finta acqua minerale, appena l'acqua da rubinetto che sapeva di cloro. Si immaginava che fosse sgorgata da una fonte di acqua di montagna, si immaginavano gli stambecchi, si immaginavano le acque cristalline, era sempre una sorta schifosa acqua del rubinetto di cucina con quella prolunga di gomma che si attaccava al rubinetto, la rendeva ancora più schifosa. Luigi da Milano, ecco, l'abbiamo ripreso. Sì, esatto. Infatti, com'era il set? Qual era il set in cui lei lavorava per fare questa pubblicità? Ah, sinceramente, se la memoria non mi inganna, era uno studio in Milano, vicino alla Fiera Campionaria, la ex Fiera Campionaria, quella mitica. Ma posso chiederle? Sì, ecco, Paola Napolitani deve fare per curiosità, domanda. Perché poi col tempo io ho lavorato spesso per prodotti per bambini, per cui mi è capitato di fare i casting per i bambini. Ma allora come l'avevano scelta? Non si ricorda se eravate no, tanti bambini? Era stata una scelta, cioè io mi ci sono trovato senza sapere il perché. Il l'aveva avevo, raccomandata al prete e l'aveva messa. Può essere. Sicuramente può così essere. È andata. Non era qualcosa del genere. Allora. E ricordo che in quel periodo ho avuto modo di lavorare con Roberto Chevalier, che poi ha fatto una grossa carriera diventando doppiatore, regista, proprio nello stesso periodo. Perché era uno dei primi bambini prodigio di quegli anni, certo. Esatto, poi è esploso effettivamente come bambino prodigio, ha fatto poi cinema immediatamente, penso intorno all'età di 7-8 anni. Andiamo avanti perché salutiamo intanto Luigi a Milano. Grazie perché, a voi. Perché grazie Luigi, buona serata e datevi da fare voi che ascoltate a casa, se no ascoltate basta, fate un po' come vi pare. Mi farebbe piacere sentire qualche altra voce, perché se non ricostruiamo la memoria di cosa ci fosse mai stato dietro lo spot pubblicitario attraverso le testimonianze, molte volte ciò che appartiene alla letteratura, al racconto dei pubblicitari, manca comunque di qualche tassello. L'acqua minerale, sembra assurdo, è uno dei grandi luoghi dell'immaginario pubblicitario. Dalle acqua fatta in bustina poi finalmente arrivò anche sulle nostre tavole la fantastica e meravigliosa acqua minerale. Ferrarelle è piacere sincero perché nasce sincera. Effervescente, naturale. Né liscia, né gassata. Ferrarelle, un frizzo di piacere sincero. Paola Napolitani, l'acqua minerale. L'acqua minerale sembra assurdo cosa ci sia dietro l'acqua minerale di mondo e di differenziazioni di un prodotto che in realtà, anche se bendati come il nostro bambino, è molto difficile cogliere le sottili differenze. Ti sei mai occupata di pubblicità di questo genere? Sai cosa c'è dietro? Quale pensiero c'è dietro il rappresentare sempre questa idea della natura che sgorga, si apre e improvvisamente ti arriva sulla tua tavola? Guarda, fortunatamente solo marginalmente, perché è una delle cose più terribili su cui si possa lavorare. Perché? Nel senso qual è il motivo? L'acqua è acqua e non esistono acque naturali. Gli puoi attribuire qualunque qualità, ma sempre acqua. Assolutamente. Quindi è il valore aggiunto che bisogna mettere su quest'acqua minerale. Sì, e deve essere un valore aggiunto credibile, non che rimanga naturale ma che non sia troppo naturale. Siamo andati tutti in montagna insieme, ve lo ricordate? Da Mike Buongiorno Messner, a figuriamoci. Messner, bravissimo. E poi c'è stato qualcuno, secondo me, che è riuscito a prendere il problema dalla parte opposta, un po' come il dado di stamattina. Io ho trovato geniale quelli che sono riusciti a fare di un'acqua di cui non faccio il nome, l'eroe che era l'unica bollicina, che era quell'unica bollicina di sodio. La particella di sodio. Infatti, molti mi stanno scrivendo su Facebook quest'odio sviscerato alla particella di sodio. Che in realtà è un dramma esistenziale. A me piace molto la storia. Questa particella solo che gira e che sta lì, che non sa dove orientarsi, non trova amici. È un chiaro esempio in cui si dice... è talmente pura, è talmente bella, c'è rimasta soltanto questa minima particella esodia. Massimo da Roma, Massimo buongiorno. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ci sono? Sì, certo. Sì, ciao Massimo. Innanzitutto volevo augurare una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio 24, vi ascolto molto, è una radio che fa molta compagnia e ci riempie di cultura. Allora, più che altro io ho fatto uno spot a Radio 24, bravo. Poi ci deve anche far ridere, visto che il tema è il comico nella pubblicità, vediamo se riesce a far ridere. Parliamo di pubblicità. Io sono molto d'accordo su quello che lei ha detto prima, cioè nel senso, ma più che d'accordo mi fa piacere che anche lei condivida il discorso di YouTube, di internet, che fa rievocare queste pubblicità. A me mi ha molto colpito il discorso del carosello, non so se voi lo ricordate. Ne abbiamo parlato tutta la mattina, certo lo ricordiamo. Perfetto, l'intervallo. Era il limite invalicabile dello spazio destinato ai bambini, iniziava la notte che apparteneva agli adulti. Finito carosello si andava a letto. Certo, l'almanacco del giorno dopo non ce lo vogliamo dimenticare. Sì, adesso, siamo qui a farci le indovene di nostalgia, mi fa anche tristezza. Però a proposito della nostalgia, io questo qui, ecco, sono intervenuto per questo. A volte tutti i giorni, a ognuno di noi, c'è sempre un attimo che ci prende quel poco di nostalgia del passato. Eh sì, è un momento di sfiga, si chiama. Meglio quando viene vuol dire che uno non ha abbastanza felicità e quindi non si occupa di pubblicità nella propria vita. Io sono fortunato perché sono uno dei pochi giovani che ho un lavoro. Ma che giovane, scusi, se nel 77 guardava la pubblicità, 72. Che giovane. 72, lei ormai ha già un piede nella fossa. Comunque. Non millanti, giovinezza. Come? Non millanti giovinezza, non è giusto. Fino a tardi. E la sera quando torno mi metto, ecco, proprio su internet. Ho capito. Allora, il senso della sua telefonata è quello. Ci saremmo persi una fetta importantissima della nostra civilizzazione legata alla pubblicità, che ne dicano oggi quelli con la puzza sotto al naso, che vorrebbero ritornare in una meravigliosa età dell'oro in cui le persone staccavano i frutti dagli alberi e vivevano di contemplazione, anche perché la rete è il grande risumatore di questa fetta di memoria. Per una sorta di passione del retro, ragazzi sconosciuti prendono, riversano, mettono in rete, si scambiano, fanno siti, più tardi ne sentiremo uno, e quindi sopravvive questo importante brandello della nostra esistenza. No, pensiamo che esista soltanto Belen Rodriguez nella storia della pubblicità. Lucio da Pisa. Pronto, buonasera Nicoletti, buonasera a tutti. Sì. Buonasera. Io ho 60 anni. Purtroppo. Un po' tanti, no? Lo so. Insomma, per i caroselli sì, eh. E dicevo, io ricordo abbastanza bene tutti i caroselli, tutte le pubblicità, compreso Zig Zag, che era il figlio piccolo di Carosello alle 8. Era l'anticipazione. Lo ricordi? Sì. Che sono più vecchio, no, cioè più o meno la sua età, anche se millanti. Quindi, e dicevo. Dico sempre qualche anno di più, così tutti dicono come li porti bene. Io millanto 60 anni, ce n'ho qualcuno meno. Quando ne avevo 60, dovrei averne 70. Ascolta, io ti ascolto da quando facevi gol, sì, figurati, alle 9 di mattina. Sì, mi dica una cosa adesso, lei da sessantenne ormai agli sgoccioli della sua lucidità, della pubblicità contemporanea, visto che è così legato fortemente e come tutte le persone stanno chiamando, hanno questo imprinting fortissimo, inestricabile nella propria coscienza delle vecchie pubblicità, di quello che vede oggi, cos'è che la diverte, la fa ridere, la fa sorridere o semplicemente rimane inorridito o colpito, teme un calo ulteriore delle sue diottrie già fortemente provate per il fatto di queste nudità tentatrici che vengono continuamente esposte? Ridere o sorridere, devo dire proprio poco o nulla, perché appunto dappertutto c'è il sesso, soprattutto femminile, che... Beh, questo è perché la fa piangere il sesso. Ma, no, assolutamente, mi piace moltissimo, e sono un etero, tanto per rispondere a qualcuno che... Vabbè, può farla ridere lo stesso, non è inutile fare le distanze. Ecco, però, no, poi guardi, no, chi mette troppo le mani avanti... No, ma assolutamente, io voglio dire, questa mercificazione, cioè delle volte si rappresenta un prodotto pubblicitario con le donne o con una figura femminile che nulla a che vedere con quel prodotto, mi spiego. Eh sì, ma questo è proprio il senso. Paolo Napolitani non deve avere a che vedere col prodotto, sennò si venderebbe soltanto gnocca, ma non è quello. Deve chiaramente associare quel prodotto a qualcosa di piacevole, suggestivo, trasgressivo. Deve fare in modo che uno non cambi canale, no? Deve attirare, Lei ci sta dicendo però che non sempre la nudità femminile attrae, nuda. Non sento. Vero? Non sente proprio su questa sconvolgente verità che lei, oltre ad aver perso la vista, sta cominciando a calare anche l'udito. Io devo dare la linea, mi sembra a questo punto, proprio alla pubblicità. E quindi sentitevi la pubblicità, aspettate, restate fiduciosi, 800 24 0024. Intesa San Paolo per voi. Un saluto, un ascoltatore ci scrive: vorrei investire in azioni del comparto tecnologico, è il momento giusto per farlo? Risponde Paolo Vassalli, responsabile fondi azionari settoriali Horizon Capital. Il settore della tecnologia offre al momento un'attraente combinazione di crescita, solidità finanziaria e elevata generazione di cassa. Le valutazioni non sono eccessive, né rispetto a quelle storiche, né verso il mercato nel suo complesso. Ulteriore fattore di interesse è rappresentato dalla possibilità della ripresa ciclica degli investimenti in tecnologia. Il comparto è caratterizzato da elevata volatilità. Questo elemento suggerisce un investimento frazionato nel tempo e comunque con orizzonti temporali medio-lungo. È bene ricordare che, in un'ottica di diversificazione del rischio associato ai singoli titoli, è opportuno scegliere di investire attraverso fondi comuni specializzati nel settore. Vai sul sito di Radio 24, sezione Intesa San Paolo per voi, e mandaci la tua domanda. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Anche domani la persistenza dell'alta pressione garantirà generali condizioni di stabilità, anche se una nuova perturbazione si avvicina dalla Francia, ci investirà più direttamente a partire da domenica. Ma tornando a sabato avremo un cielo grigio in pianura padana e sul versante adriatico per il sollevamento delle nebbie, nebbie che troveremo a banchi in mattinata anche nelle valli del centro e in Puglia. Per il resto bel tempo, con nuvolosità però in aumento nel corso della giornata nel resto del nord e sull'alta Toscana. Clima diurno mite, con temperature ancora oltre la norma, superiori ai 20 gradi sul versante tirrenico e al sud. Per il meteo è tutto, altri dettagli su meteo.it. Tutti pazzi per la notte dei publivori. Sottilette file e fogli, bianche, morbide, cremose, per la tua buona cucina. Senti, scrivimi giù la ricetta della frittata con zucchine e formaggio. Mescolo le zucchine trifolate con uovo sbattuto e prezzemolo, poi aggiungo le sottilette filo ai fondi, quelle col gusto delicato. Gusto delicato che si fa crema nei tuoi piatti. Fondono e filano. Questa me la ricordo benissimo. Paolo Napolitani, copywriter, direttore creativo di tanti spot pubblicitari, è inutile che fai no col ditino. Lo so, queste non sono, non le tue, ho fatto queste, non sono le tue sottilette. Giovane. Ma tu sei stata sottilettologa, ti sei occupata di sottilette. Allora, allucinami la sottiletta. Sottiletta era un meraviglioso condensato di residui di formaggio che diventava un formaggio, una nuova forma di formaggio. E veniva usata dappertutto, messa dappertutto. Vuoi la minestrina con la sottiletta spiaccicata sopra, te la mettono sulla minestrina. Vuoi il panino con pane, prosciutto e sottiletta. O poi vedi le mistiche. Non hai niente, apri il frigo, prendevi la sottiletta, la mettevi dentro un pezzo di pane e avevi il panino. Questo è vero. Ecco, era... quale tipo di idea produce la sottiletta, la suggestione della sottiletta? Guarda, il problema che avevo dovuto affrontare io... Perché non aveva forma, era come il dado di cui parlavamo questa mattina. Non assomigliava a nulla che fosse formaggiforme. No, non solo, ma ti dirò, a me quello che era capitato è che la sottiletta da sottiletta unica era diventata quattro sottilette, perché come senti anche in questa è file fondi, e poi avevano fatto la sottiletta normale e poi è arrivata la sottiletta con pochi grassi, per cui le sottilette si sono quadruplicate a un certo punto. Io usavo anche dei sottilettone formato famiglia che le mettevano nel frigo e ce le davano per una settimana intera. E bisognava creare comunque un mondo di appartenenza e di credibilità alla sottiletta. Per rimanere in tema di sottilette, Marta Cagnola. Ah, grazie, mi piace. Poi mi piace. Era un complimento velato, subliminale, capito? Bellissimo, sottiletta vestita da cioccolatino. Poi questa pubblicità mi piaceva tanto perché lei diceva: scrivimi giù la ricetta. Brava, è vero. E mi sembrava proprio uscita dal mio paese natale. Spiegatemela questo, perché io essendo di radici centro italiane, non capisco. Scrivimi giù cos'è? Un lombardismo? Sì, in Brianza si dice proprio scrivimi giù. E quindi era molto, mi piaceva questo scrivimi giù la ricetta, mi è sempre rimasto impresso. Però Gianluca, devo dirti una cosa, c'è un sento un il fuscio di notte dei Publivori alle tue spalle. Sì, c'è un sacco di gente. C'è un problema tecnico, la prossima notte dei Publivori io devo stare in studio e tu invece di venire al teatro, perché io sono qui con delle Publivore che sono un po' deluse, perché la prima cosa che mi hanno chiesto era: ma Gianluca Nicoletti non c'è. Non creiamo questi miti, perché ho non creiamo questi miti. Allora, tenera famiglia in ascolto. Però ecco, dopo le 23 vengo giù. Dopo le 23 arriva. Ecco, allora, due Publivore, io sono qua ambasciatrice col microfono. Che è un termine a questo ambiguo. Comunque. Vabbè, ma sarà lunghissima per me questa trasmissione. Dagli, lo dai. Sai che io casco in tutti i doppi sensi, tripli. Alimentando sensi, le tue speranze, sentiamo le Publivore. Come le sottilette, io li quadruplico. Allora, Loredana e Francesca, vero? Allora, cosa vogliamo sapere dei Publivore? Intanto loro io già le vedo e non sono della generazione di Carosello, sono della generazione degli spot delle TV commerciali, vero? Quindi sono sotto i 30 anni. Esattamente. Sotto i 30 anni, sì. Abbondantemente sotto i 30 anni, andiamo ancora alle superiori, è vero? Beh, dalla voce ne darei 45, però io per minimo di esperienza. No, non è vero, sono davvero giovani. Quindi, beh, 45 avercele, scusa, sono delle signorine di primo pelo per quello che mi riguarda. Sì. Ecco, no, veramente la curiosità è, ci sono gli invasati come me che vanno sempre a vedere la notte dei Publivori, ma perché le persone, ti assicuro sono due ragazze molto carine, hanno l'aria veramente da persone per bene normali, ma perché andare a vedere la notte dei Publivori e farsi una scorpacciata di spot? Beh, a me piacciono tantissimo gli spot, è la prima volta che vengo qui alla notte dei Publivori, mi piacciono le atmosfere che vengono ricreate negli spot, sono un'appassionata di cinema, di musica, quindi penso che stasera troverò un concentrato un po' di tutte le mie passioni. Ma anche di felicità, ecco, perché il nostro tema era un po' anche la felicità, oggi ne abbiamo parlato Gianluca questa mattina, c'è questa felicità che dà la pubblicità un po', eh? Ma allora, io penso che sia una pubblicità ovviamente finta, no? Nel senso che quello che ci interessa nel venire a vedere questo tipo di diciamo così manifestazioni, che possono secondo me tra l'altro essere presenti a Milano, perché se non sono a Milano non sono da nessun'altra parte. Beh, l'hanno fatta anche a Parigi in altri tempi, molto sì, nostalgici. Certo, l'hanno fatta a Parigi e l'hanno inventata a Parigi, però in Italia, dai. Italia, infatti, no, dico. Ma voi sperate di incontrare qualche testimonial all'illustre di spot pubblicità pubblicitari? Come film sia una grandissima invenzione, no? E quindi per questo ci regala, se vogliamo, la felicità. No, però c'è Gianluca che insinua il dubbio che voi in realtà siate qua nella speranza di incontrare qualche testimonial famoso, tipo chi sarebbe il testimonial dei non sogni? Lo so, io. Non ditemi George Clooney, ditemene un altro. No, George Clooney, no, io sono assolutamente la persona meno adatta perché io non ho nessuna di queste ambizioni. Anche perché pare sia tutto fumo e niente arrosto, diciamo la verità. Sono venuta qua per i gadget, i cioccolatini, il caffè, il matitone di Radio 24. Ah, vedi, è vero, è perché i cioccolati, è vero, io ancora, vedi, io sono proprio ingenua, è pieno di cioccolatini, è pieno di cose, perché il principio era, qui si viene a fare tutte le cose che non si devono fare, quindi delle razzolatrici di gadget e respirare quest'aria felice, ilare, allega che dà la pubblicità, perché la pubblicità io non vedo, deve mettere io tristezza. Vedo, io li vedo tutti felici qui, adesso c'è stato proprio un ingresso in massa, io vedo un sacco di gente felice, contenta, quindi te lo ricordi, non si interrompe così un'emozione? Sì, chi lo disse però gli portò anche poco bene, diciamo la verità, perché adesso mi sembra che sia esattamente il contrario, l'emozione il contrario. È continua, e la pubblicità è la vera emozione, il resto è un intermezzo flaccido e fiacco fra le grandi emozioni degli spot pubblicitari, almeno questo è il senso delle persone che stanno lì. Marta, resta in ascolto, ma intervieni quando vuoi, perché noi abbiamo stabilito un segnale convenzionale che si faceva con la mano, io ma lo dici per e la regia. Guarda sì. Che poi che c'è la webcam, non lo Gianluca. Posso dire. Quando faccio quel segno tu devi intervenire, tu intervieni quando vuoi. Do una raffica di ascoltatori, così diamo anche spazio alla gente, sta telefonando numerosa. Alessandro da Ravenna, velocissimo. Sì, buonasera. Io ho 33 anni, quindi negli anni 80 avevo 4, 5, 6 anni, in età ho beccato in pieno gli anni 80. E io una pubblicità che ricordo, io premetto che vengo da un paese purtroppo piccolo, di provincia, ed eravamo... Perché dice purtroppo? È un valore? Ma... grazie. però il valore nasce in un posto di provincia, uno ha una diversità che può impugnare come valore. È vero, però, io quando arrivai a Roma per la prima volta, venendo dalla umida e selvaggia Umbria, trovai tutti i colleghi che avevano studiato con Naso Rosa, un branco di cretini, tutti uguali, tutti lì con le loro fidanzatine che avevano dalla prima elementare, e in effetti feci strada. Noi, ecco, noi eravamo veramente un branco di sfigati, questo va detto. Vabbè, anch'io ero sfigato. È bello essere sfigati da giovane. Brutto esserlo da vecchi. Io vedevo queste estati dipinte dalla pubblicità dell'Algida, no? Dove c'erano questi ragazzi tutti col motorino, tutti col sì, tutti allegri, con le ragazze che tra virgolette ci stavano, cioè nel senso riempivano di baci questi ragazzi che arrivavano col cornetto Algida, e noi tutti ci guardavamo sperando che un giorno arrivasse anche per noi quell'estate lì. Perché se ce lo diceva la pubblicità, prima o poi per tutti arrivava. Allora resta in ascolto, Alessandro, ti do un brivido di felicità e di nostalgia. Stai facendo la ola da solo come uno scemo nel tuo salottino, immagino, Alessandro. Incredibile. Sono emozioni queste, vero? No, devo dire che ogni tanto corro a vedere su un sito particolare tutta una bibliografia incredibile di pubblicità anni 80 e ad esempio non era Natale se non c'era il tartufone. Ah, il tartufone, è vero, che grande tartufone. Nostalgia. Il tartufone pure, devo dire, è qualcosa che solletica fortemente la nostra suggestione. Io vorrei aiutarti questa sera a ricordarci questa serata e non dimenticarla mai più. J'avais un regalo chocolatine. Pardon, chocolaton, tartufo. Et la confection, voilà. Un vasoyon laisse. Il gusto, c'est très très bien. Rhum café. Sentez bien. Mes amis, à vous. Ah, et à moi, Chocolatine tartufo. Paul Napolitani, sul tartufon hai qualcosa da dire? No, credo di ricordare che fosse di Godi questa, era stata un'idea che era venuta fuori. Godi è quello che ha fatto la maggior parte delle pubblicità, penso, che noi ricordiamo. Non vorrei sbagliare. L'abbiamo anche cercato, non so se lo ritroveremo, se lui magari fosse in ascolto sappia che lo stiamo cercando appassionatamente. Allora Alessandro sarà stramazzato dal piacere, la moglie avrà già chiamato il pronto soccorso, e però Alessandro da Siena, un altro Alessandro. Alessandro. Ciao, senese. Ciao. No, hai detto una cosa che, beh, vediamo se riesci a dirla in termini di cibi, tanto ormai siamo fuori dell'orario protetto, poi vabbè. Figurati, mi scivola. In Spagna una bellissima pubblicità, sì. Una ragazza che esce dalla doccia, tutta bella, e a un certo punto si piace, però si vuol far piacere, e allora cerca nella sua borsa il suo vibratore personale. Ma non lo trova, e poi scopre che l'ha preso la nonna. E ci sta montando la maionese. Sì, diciamo che l'immaginario dell'elettrostimolatore femminile coglie molti spot pubblicitari, ma noi siamo un paese in cui queste cose si fanno e non si dicono. E te ti fa ridere quella, fa ridere. Queste possono, vedi, sono le pubblicità estreme che noi le vediamo su YouTube, perché le radunano tutte. Non sappiamo nemmeno se queste mai sono andate in onda in televisione. Ce n'è anche un'altra, per rimanere in tema, di una ragazzina. Al giorno del compleanno, felice ragazzina, una 17-18enne, sta usando lo stesso elettrodomestico in felice solitaria, e comincia a entrare il padre di fargli auguri, i nonni, il prete, la zia. Alla fine il cane salta, scoperchia la coperta del letto, questo missile vola in aria, si va a infilare proprio dentro la torta e porta la nonna, e schizza di crema e cioccolata a tutti gli astanti. Per dirti che sfondi porte aperte, conosciamo il genere, ma sono quelle cose estreme che la rete ti fa credere che in realtà vadano in onda. Io sospetto. Perdonami, sì. se te guardi la pubblicità in Germania, in Spagna, vedi, oppure anche in altri paesi d'Europa, vedi, donati, ma forse la mia è retorica, non lo so. No, ma... vedete delle pubblicità più aggressive, più aperte, più. Io credo che osano di più. Allora, noi siamo pieni di genitori organizzati, di difensori della pudicizia, di tonache, di preti. È chiaro che alla fine un po' di limite c'è. Cosa ne dici, Paola Napolitano? Guarda, credo che in parte però questo signore abbia ragione. No, ma io do ragione in pieno a lui. Perché ovviamente la pubblicità deve rispettare quelli che sono i gusti del paese. Come vi dicevo prima, oramai nulla va in onda che non venga prima testato. Fare il test vuol dire non una volta, ma una e più volte. Ma chi sono, diciamo, le cavie che fanno il test? Perché se vanno a cercare degli oratori, è chiaro che... No, però in genere sono campioni del target di preferenza. Dopodiché tutto viene epurato, per cui basta che qualcuno si senta minimamente offeso che immediatamente quella cosa viene tolta. Ora, io dopo tanti anni che ho fatto questo lavoro ho capito che effettivamente lo spirito ironico o autoironico degli italiani non esiste. Cioè in realtà noi italiani non siamo molto bravi a prenderci in giro e quindi ridiamo dietro agli altri, ma è difficile se uno ha un prodotto che accetti di essere un po' spiritoso. Marta Cagnola, dal tuo osservatorio cosa hai da commentare rispetto a questo sottogenere di pubblicità? E su questo giustamente quello che dice Paolo Napolitani, in realtà parliamo di pubblicità è comica, ma ridiamo su tutto meno che su noi stessi. Ah beh certo, perché noi ridiamo, no, in realtà noi ridiamo su quelli che pensiamo siano i difetti degli altri, certo. Non vogliamo certo rivederci in quelli che poi in realtà forse sono i difetti nostri. I nostri quasi simili, ridiamo del vicino di casa, ridiamo del politico, ridiamo di tutto meno che di noi, c'è qualcosa che ci fa male su cui non vogliamo mai ridere. Ma poco ma sicuro, insomma, devo dire che già dai tempi di Carosello che adottava con grandissima classe gli stilemi della commedia italiana o all'italiana, che adesso sembra un po' una bestemmia dire all'italiana, ecco. Però è il termine esatto. Ah, io sono assolutamente d'accordo, però sai che quando si fa la domanda commedia all'italiana c'è sempre qualcuno che si offende. Bisogna dire, sono le maestrine della penna rossa, ci sono sempre, che hanno una sorta di sacra e reverenziale ammirazione per la rettitudine e la tradizione lessicale, non sapendo dietro certe parole in realtà ci sono dei significati profondi. Marta, mi interrompo un attimo, dare la linea alle informazioni del traffico, tra un istante a te e alle tue gentili ospiti. Il punto di forza di un'economia moderna è la professionalità dei lavoratori. Anche le competenze più qualificate hanno bisogno di aggiornamento. Per questo Confindustria, CGIL e CISL e UIL hanno creato Fondi Impresa. Fondi Impresa finanzia da anni la formazione continua in tutte le aziende italiane. Oltre 72.000 imprese hanno già aderito. Più di 1 milione di lavoratori ha già fatto formazione. Con Fondi Impresa le persone valgono di più. E le aziende recuperano competitività. www.fondimpresa.it. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera, la 3 Salerno-Reggio Calabria è chiusa in entrambe le direzioni tra Frascineto e Sibari per il recupero di un mezzo pesante incidentato. Per operazioni doganali si incontra coda sulla 9 Lenate Como-Chiasso in direzione Svizzera tra Como Montelimpino e la dogana di Chiasso. Attenzione alla nebbia sulla 6 Torino-Savona tra Niellatanaro e Millesimo con visibilità 80 metri. Per lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia è chiuso verso Milano il raccordo per la 7 Milano-Genova sino alle 6 di domani mattina. E fine al traforo del Fregiù. Anticipiamo che per lavori dalle 22.30 alle 6.15 di domani si viaggerà a senso unico alternato. La circolazione nel tunnel prevede alternativamente per ogni senso di marcia un'ora di transito e 1 ora e 30 minuti di attesa. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora. Tutti pazzi per la notte dei publivori. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, Cinghiale. Cinghiale, la grande marca. Questa qua del pennellone che viene portato in mezzo alla strada è una classica pubblicità che in fondo ha dei sensi di arcaico, di surreale e di legato fortemente poi a quello che è l'utente, il bersaglio. Chi compra quei pennelloni? Compra il vecchietto appassionato di bricolage, l'operaio, quindi è perfettamente riscoperto. Io in questo momento vorrei sentire un grande, ma anche un amico, e sento molto volentieri, che sicuramente mi aiuterà a sostenere la mia battaglia di irrisione della finta ironia, della finta comica, del finto ottimismo, molte volte si cela dietro gli spot pubblicitari. Oliviero Toscani, buonasera. Buonasera. Ciao Oliviero, parlare di pubblicità con te mi sembra un'operazione sin troppo divertente. In questo momento, se tu dovessi dire la cosa che più ti dà fastidio nella pubblicità, il senso comune, diffuso, il luogo più ricalcato che tu vorresti abolire, quale sarebbe? Beh, prima di tutto voi parlate solamente di pubblicità e parlate solamente di televisione. televisione. È quella che ci colpisce di più. Cosa è vero che io non ho mai fatto e mi rifiuto di fare. Ho dimostrato che si può benissimo fare delle cose interessanti senza fare assolutamente niente in televisione. E già questo non è male, no? Quindi la televisione non è... Ma per questo ne puoi parlare con il giusto distacco di chi non si è mai sporcato le mani. Allora, io sono un fotografo e chiaramente le immagini vengono utilizzate dalla pubblicità, perché la pubblicità non è altro che un mezzo di comunicazione, non un mezzo, è il mezzo più ricco dove viene investita la maggior parte dei soldi nel mondo della comunicazione. Anche perché deve essere efficace la comunicazione, perché deve vendere qualcosa. Infatti, ho sempre detto che un giorno ci sarà un processo di Norimberga alla pubblicità e a tutti i dementi che fanno la pubblicità, a tutti i subumani, questi qua delle agenzie che vanno alla ricerca del target, ti vorranno del un sacco payoff, di tutte quelle cazzate che fanno i focus group, la ricerca, e da quando c'è il marketing, insomma, questa strana mestiere che nessuna madre o nessun padre che fa marketing riesce a spiegare a suo figlio la mattina quando va a scuola e gli chiede: ma papà, tu che mestiere fai? E questi qua non sanno rispondere. Fanno un mestiere. Oddio, questo è un dilemma che coglie spesso anche i miei figli. Diciamo, ci sono dei mestieri molto particolari, difficilmente rappresentabili. Quindi tu sostieni, e io sono anche in parte d'accordo con te, questo è un sistema che si autoalimenta, cioè si è costruito e vive del riflesso di se stesso. Se un domani qualcuno dicesse la pubblicità non fa vendere, il marketing è totalmente fasullo, l'economia non ne avrebbe danni. Ma sai, fa vendere, ci sono... La pubblicità è sempre esistita, ma guardate la Chiesa, pigliava Michelangelo per dipingere forse anche una pubblicità menzognera, nessuno ha mai provato l'esistenza del paradiso o dell'inferno, eppure la Cappella Sistina era la pubblicità che promuoveva la Chiesa con tutto il suo potere, quindi però, la pubblicità c'è sempre stata. Però scusami, Oliviero, la Chiesa vende sempre lo stesso prodotto a 2000 anni, che è la salvezza dell'anima, no, e quindi è un brand già conoscibile subito. Ma tutti vendono un po' la salvezza dell'anima vendendo dei prodotti, tutti vogliono vendere l'essere felici, è tutta una bugia, chiaramente con 16 valvole hai il pisello più grande, non avrai furuncoli se metterai quella crema. Queste sono informazioni importantissime, sapere. Ma sono tutte balle e tutti sperano di vivere nelle balle. È come fare il lifting, no? A te sei molto interessato in questo intervento medico sulle facce, no? Uno guarda la pubblicità e pensa di diventare George Clooney. Questo so che è un argomento che è vicino alla tua sensibilità. Non a caso noi abbiamo ormai un tipo umano che è omologato. L'essere umano che oggi con un colpo d'occhio non riusciamo più a definire nella sua destinazione, nella sua origine, una volta era molto più semplice. Io ti vedevo da come sei fatto, capisco più o meno da dove vieni, qual è la tua storia, e qual è la vita dei tuoi genitori, la tua alimentazione, la tua cultura. Oggi in realtà c'è una riproduzione sintetica di un modello che non esiste, non è stato pensato, non è frutto di nessun incrocio. Ma io, sai, le cose le guardo. Tu metti troppa intelligenza nella pubblicità. La pubblicità è fatta per dei subumani. Sono la grande maggioranza della gente si accontenta di essere così. Guardate gli spot del telefono, per esempio Team Telecom, sono tutti uguali, anzi più cretino è più contento. Però chi ama cambiare il telefonino spesso, chi ama affidare... Non è vero che bisogna far vedere i cretini per vendere di più, ma non è vero. Ma perché lo fanno? Sono masochisti, qual è il motivo? Ma guarda che Mozart, per capire? Mozart è il musicista più commerciale che ha venduto più dischi e che li venderà sempre di più. Quindi non è vero che bisogna essere mediocri, bisogna cercare il consenso per avere un successo economico. Ma chi deve fatturare allora cosa deve fare per far vendere il prodotto? Di questo consenso porta diretto alla mediocrità, non a caso esiste una crisi economica proprio che è prodotta anche da questa mediocrità, e la pubblicità è l'esempio più tipico di questa imbecillità della comunicazione moderna. Ma però secondo te chi deve vendere prodotti, dice tu devi farmi vendere questa roba, non si può porre il problema di essere anche salvatore dell'umanità? Che gliene frega lui? Essere salvatore dell'umanità, ma non è vero, basta fare delle cose interessanti. Hai due possibilità per essere ricordato: o la ripetitività, cioè sempre lo stesso spot 200.000 volte, e il vaso era, l'abbiamo salvato l'ultimo momento con l'aeroplanino, ve lo ricordate? Il famoso veterinario, certo. L'aeroplano lì un giorno o l'altro casca, diventerà più interessante. E poi ce lo ricordiamo tutti, quanti veterinari si sono immedesimati con lo spot? Ricorderemo solamente quello dove casca, basta. Allora, o con la ripetitività o con la memoria. E con la memoria devi essere creativo, devi andare a toccare la condizione umana, devi emozionare, devi sorprendere. La pubblicità non sorprende più, fa ridacchiare gli stupidi. Forse però, guarda, è fatta per persone che non vogliono essere sorprese. Ascoltiamo insieme un attimo, Olivero, qualche ascoltatore, perché devo dare un po' di spazio anche a loro, così può intervenire e può anche aiutarmi a capire questo dilemma. Noi se la guardiamo con lo spirito di città, è vero, ci poniamo tutti questi problemi, ma che se la guardiamo con il distacco di chi non si sente contaminato, io dico, ma questa roba a me non mi farà mai comprare un fiammifero in più di quelli che già uso, si guarda come una fantastica lettura anche della stupidità dell'umanità. Vincenzo, la provincia di Monza e Brianza. Salve. Eccomi. Buonasera. Lei vuol parlare di una pubblicità che sintetizza tutto il mondo fallace farlocco che ci ha illustrato Toscani. Qual è? Allora, la pubblicità del Mulino Bianco. Certo. Che non è mai esistito nel Mulino Bianco. In realtà lo sa che è finto, non esisteva lì. L'ho saputo crescendo. In realtà mi sembra che l'abbia inventato Alberoni l'idea del Mulino Bianco, e che è un tutto dire. Non lo so, che quando ero piccolo io ho passato la mia infanzia a Napoli, in una famiglia completamente diversa da quella del Mulino Bianco. Noi eravamo tre figli maschi, tutti piccolini, e ricordo che ogni cena e ogni pranzo era solo litigi e, lo dico, napoletano, mazzate. In pratica si litigava continuamente per tutto, e mi ricordo che quando interveniva, ho questo ricordo di questa pubblicità, ricordo benissimo il momento in cui interveniva la pubblicità di interrompere questo continuo litigio, quasi a mortificarci per il fatto che non eravamo come loro. Io ricordo benissimo questo momento quasi di soggezione. Non ricordo, è un po' come nel film Pane e Cioccolata, quando gli immigrati meridionali guardano chiusi in una stia di polli gli svizzeri che camminano a cavallo su questi cavalli meravigliosi. Noi avvertivamo proprio la differenza. E allora adesso da un altro elemento, Olivero Toscani, Ferni da Rovigo. Ah sì, buonasera. Un'altra fantastica pubblicità che ha segnato la nostra fanciullezza, con delle illusioni fantastiche, qual è? Proprio, anzi addirittura io poi la cercavo quella pubblicità lì. E qual era? Aspettavo proprio sempre di vedermela. Ma qual era? Deve dire qual è. Qual era? Io devo dire questo, cioè era quel meraviglioso cavallo bianco, no? Certo. Sulla riva del mare, che poi sullo sfondo, diciamo, la prorompente vitalità, ti ricordi, Oliviero? poi sullo sfondo, questo era il bello, usciva fuori il prodotto, naturalmente, ma mentre il cavallo, questo meraviglioso cavallo, si allontanava, no? Dalla riva del mare. Era una meraviglia, cioè proprio io la cercavo questa cosa. Olivero Toscani, senti come però gli spot pubblicitari... No, ma è chiaro che la ricerca della bellezza... Li hanno segnati. Ma la ricerca della bellezza è intrinseca dell'uomo, vogliamo vedere cose belle. La pubblicità ha i mezzi economici per fare delle cose... Però dietro c'era il bagno scuma a forma di pigna, capito? Dietro c'è il bagno scuma. Con quel tappo ambiguo che adesso hanno cambiato, però... Beh, è divertentissimo quando tu parli di pubblicità, è veramente una roba da subumani. Beh, io descrivo e vedo e tocco quello che ha formato anche il mio senso estetico, perché se non ci fosse stato il cavallo bianco, se non ci fosse stato il mulino bianco e via dicendo, non sarei quella carogna che oggi sono. Sai, sotto ogni casa ci sono tanti problemi, non c'è solamente la felicità del mulino bianco, è veramente una presa in giro. Tu pensa a quello che ha telefonato prima dicendo che eravamo sempre in casa, guardavamo il mulino bianco, e questo ci metteva immagina la famiglia con i bambini. È chiaro che poi un ragazzo a 15 anni, dopo che ha visto il mulino bianco, dice: ma io sono proprio sfigato. Tutti lì neri, col papà gli dava le mazzate, urlavano, macchie di pasta asciutta, vedevano il mulino bianco, il cavallo Vidal, e pensavano che la vita fosse veramente stata con loro del tutto ingenerosa. Grazie Olivero Toscani, devo dare la linea alla pubblicità, se no mi segano le gambe. A più tardi. Tutti pazzi per la notte dei publivori. Perfetta, Dino R. Collofit. Collofit? Sì, Collofit, giusto collo, come la mia. Credetemi, e se va bene a me, buona camicia a tutti. Dino R. proprio una camicia coi baffi. Le giovani generazioni non ricorderanno che Maurizio Costanzo faceva il clan di una camicia, faceva vedere il suo collone, dice se m'entra a me va bene a tutti. Sono momenti passati, momenti che forse da molti sono dimenticati, ma noi dovremmo essere tutti pazzi per la notte pubblivori, ma stiamo facendo in realtà un pessimo servizio alla pubblicità, ma forse in parte questo serve anche a potenziarne, a dignificarne l'esistenza. Marta Cagnola dalla notte dei pubblivori. Allora io non so se mi sentite, certo. Mi sentite bene, perché io sono all'interno del teatro e c'è la Civica Orchestra dei Fiati di Milano che sta tenendo un concerto straordinario con delle pietre miliari della musica. Abbiamo sentito Bidi Bodi Bu, abbiamo sentito Brancamenta, insomma tutte le canzoni. Guarda, ho la pelle d'oca, se continui dai continui. Straordinario. Il crescendo credo fosse proprio quello su Pino Silvestre, il cavallo. Adesso c'è L'unico frutto dell'amor, insomma... grandi, grandi classici. C'è un'orchestra che suona i motivi della pubblicità che in realtà hanno cialtronamente alimentato tutti i nostri sogni impossibili. Hai sentito una parte, i bambini nel basso napoletano, ogni volta la faccio peggio, lì i poverini che mangiano tutti la pasta asciutta con le mani per terra, col papà e la mamma che li vengono i carabinieri a portare via, insistiamo nei luoghi comuni, guardavano la famiglia del Mulino Bianco e impazzivano di gioia. Ecco, poi cos'altro sta succedendo lì? Cosa? Come no? Che vorrei smascherare Oliviero Toscani, perché lui è ancora in linea, guarda, è in linea, così ti straccia. Sì, certo. Oliviero, stai sentendo Marta Cagnola? Ma lontanissima, più chiara. Sì, ecco, è la nostra inviata vestita da cioccolatino che dice che ti vuole smascherare. Parla, avvicinati alla bocca il microfono. Ecco, adesso che finito il concerto posso... Cioccolatino. Allora, posso dire un bellissimo Oliviero Toscani, direi circa 1974, quattro fotografi molto bravi che indossavano degli abiti fatti su misura. Mi può smentire? No, facis, non erano su misura. Ah, facis, orrendo, Oliviero, vestito. Io feci le fotografie. Eri l'uomo facis, te, e vestito. E non c'era solamente il fotografo, c'erano anche i giornalisti, c'era Gianni Brera. Ma poi un bellissimo Oliviero Toscani. Soltanto Fini ancora veste facis, più. Secondo me. Oliviero, ma tu vestivi facis, hai messo il vestito addosso? Ma mai persone, non, ma scherziamo. Non ti ho mai visto? Tutte bugie per i subumani. Ah, quindi non c'entravi niente? Nessuno c'entra niente. Sei stata smentita, Marta. Cosa pensi, che Cialciuni beva il Nescafè? Ma figura. Ma penso di no, figura. Ma secondo me sono tante che non ci racconta giuste, però vabbè, questa è la mia opinione. Ma questa, beh, tu avevi questa tua notizia. Hai altre fulminanti indiscrezioni, Marta? Ma no. Fulminante indiscrezione, io sono ancora scioccata da questa bellezza di questo concerto, di questa musica, anche perché poi queste canzoncine in realtà ce le ricordiamo tutti, cioè si potrebbe fare proprio un quiz e ce le ricordiamo tutti. Alla fine, secondo me, ma non lo so, forse anche tutto questo parlare male della pubblicità è perché ci colpisce un po' il cuore. Ma, vabbè, certo. Ma io non faccio uno, come uno parla male di un amante che l'ha tradito. Noi ci sentiamo traditi dalla pubblicità perché la sua promessa non è stata mantenuta, e per questo ci ha tradito, per questo ne parliamo male, ma per questo la serbiamo ancora nel cuore. Agostino da Roma. Buonasera, come accennavo alla collaboratore o collaboratrice, sì, prima, sì, che mi ha, io ho dei ricordi, un ricordo proprio, ho 66 anni, quindi oltretutto questa è una piccola parentesi, ma poi spiega proprio il motivo della mia telefonata. Ho quattro figli che vanno da 10 anni a 38, quindi 10, 14, 35, 38, sì, per cui adesso la pubblicità di adesso, per esempio, io ricordo la pubblicità della China Martini, ecco, che era ambientata in un vagone letto, un vagone ferroviario, pardon, ed era interpretata da artisti di prosa, attori di prosa, tipo Calindri, Franco Volbi e un altro paio. Calindri faceva anche il Cinar, faceva un po' tutto. Esatto, bravissimo, bravissimo. Quindi per noi, qui parliamo già degli anni 55-60, quindi per noi adolescenti e poi dopo ragazzotto, diciamo, nel 60-16 anni, per noi l'alcol, quindi tutto ciò che era alcol, era una cosa per anziani. Non diciamo vecchi, per anziani, per cui lo rifiutavamo, mi intende? Invece quello che abbiamo imparato benissimo era invece quella delle sigarette, ricordo quella della Camera, fresche dagli Stati Uniti, parevano le ova, dice fresche dagli Stati Uniti, immagina, uno le fa la boccata di sigaretta, fresca dagli Stati Uniti. Vabbè, lì c'era poi tutto il fenomeno del prodotto che poteva essere piazzato all'interno dei film, le sigarette erano sempre il pacchetto in vista. Sì, c'è diciamo un abbassamento, cioè un innalzamento di una sorta di pudicizia per alcuni prodotti. La china martini la bevano soltanto gli anziani nel vagoncino del treno, e voi giovani dicevate no, per noi abbiamo altri tipi di vizi corroboranti. Giorgio da Genova. Buonasera ai suoi ospiti. Buonasera a chi ci ascolta. Tanta bella gioventù stasera, mi dica. Ma io ho 43 anni. Beh, allora faccio la voce da giovane, scusi. No, c'ho la voce un po' roca. Però vedi, ho giustamente interpretato per un piede nella fossa quello che è soltanto no, la voce. No, tutti e due già da tempo. Vabbè, allora andiamo al punto. Allora, innanzitutto faccia parlare più spesso alla sua ospite femminile perché ha una voce meravigliosa. Eccola. Oltre a essere Paolo Napolitani, sei stata evocata. Ovviamente, non è che facciamo solo come fa Berlusconi, che parla solo della bellezza. No, niente, le acque quelle con quelle polveri a me non mi sono mai piaciute, prima di tutto. Meno male che adesso non la vedo più con la pubblicità lì, che c'è stata l'avanzata delle acque normali e cose. Niente, la pubblicità ovviamente impatta su di noi. Io l'ho potuto vedere soprattutto nei paesi dell'est, dove in alcune strade che ho visto prima, diciamo, dell'arrivo del consumismo così sfrenato, e poi con l'arrivo delle pubblicità veramente sono cambiate totalmente. Allora fermiamoci un secondo. Marta Cagnola, ci sei? Eccomi qua. Dunque, qua io devo dare un supporto, perché devo essere equanime e naturalmente giusto, a quella che era la tua supposizione, anzi la tua maligna insinuazione. Tu insinuasti che l'amico Oliviero Toscani partecipò a uno spot dell'Uomo Fascis e ti sbagliavi senz'altro. Scusate, abitualmente vesto Marzotto. Eh sì, può anche accadere di trovarsi in una situazione così imbarazzante. Ma nella realtà, quando possiamo porre ogni cura nella scelta attenta di un tessuto, di un taglio perfetto, di finiture accurate, allora Marzotto, confezioni Marzotto, per donna, uomo, giovane, ragazzo. Ecco Oliviero, Marzotto, in questo spot sei tu mascherato da statua greca che fai delle foto di nascosto, o mi sbaglio? No, non era Marzotto, era Facis. Io non accetto con quella roba lì. Allora ammetti quello che diceva Marta Cagnola, è vero. Ma è famosissimo il mio spot della Facis, perché io feci la campagna stampa. Ma non c'eri tu anche in video su questa? No, mica ero in video nella campagna televisiva. Mica un peccato, lo dico perché poverina no, Cagnola. No, ma figura, non è nessun problema. Anzi, non è a dirlo, ma e come funzionava in questo caso? Come avevate costruita questa pubblicità? Ma era la storia di quattro fotografi, ogni fotografo aveva una sua personalità e io nello spot avevo i soliti blue jean e la giacchetta di blue jean, fotografavo uno stile blow up, era il periodo così, fotografavo una bella ragazza per strada, dopodiché avevo anche l'autista con una casa della scoperta che mi portava a casa con la mia macchina fotografica e la bella ragazza di fianco a me. In realtà quello che mi succedeva veramente, insomma, mi è successo. Quindi raccontavi la tua esistenza. Senti, rispetto alle telefonate che abbiamo sentito prima, la diversa percezione a seconda della generazione del prodotto, l'alcol che si usava soltanto per gli anziani, oggi uno dei grossi problemi è di queste bibitine che non si capisce bene cosa siano, ma in realtà hanno un tasso alcolico che fanno impazzire, abituano i ragazzi già in tenera età all'uso di sostanze alcoliche. Hai qualcosa da aggiungere? In realtà, in rapporto al tempo passato non c'è stata questa grandissima evoluzione, devo dire, nel rapporto al tempo che è trascorso, perché chiaramente parliamo di 50 anni qui di tempo. Sì, sì, è una vita. 60. Noi. Quindi sono successe tantissime cose, anzi ci sono degli spot degli anni 70 e 80 che sono molto più avanti di quelli di adesso, perché appunto non c'era la pressione del marketing, si aveva più coraggio. Si andava a toccare dei sentimenti e delle sensibilità che adesso non si ha il coraggio di andare a toccare. Adesso in fondo siamo molto più bigotti. Questo lo dicono anche molti ascoltatori. È d'accordo Paolo Napolitani, che è stata silenziosa molto tempo, ma già in studio all'inizio, che è una copywriter e direttore creativo di grande esperienza, su quello che dice anche Toscani, che un po' trapela anche dalle memorie dei nostri ascoltatori. Si è perso coraggio e voglia di osare in territori non conosciuti. Assolutamente, quello che vi dicevo prima è stato un po' la nostra rovina negli anni Ottanta. Fine degli anni Ottanta in poi abbiamo cominciato con i test, cioè una campagna che va in onda a luglio invento del 2010 ha iniziato ad essere studiata più di un anno prima e ha subito ogni tre mesi dei test che l'hanno via via modificata. Ma non trovi che il sentire generale del pubblico a cui ti rivolgi possa cambiare? L'anno che c'è il terremoto, l'anno che c'è la crisi economica, cambia la sensibilità. Tu hai testato un prodotto sei mesi fa in cui eravamo tutti felici e contenti. Oggi non lo sentiamo più nella stessa maniera. Sai, innanzitutto io l'ho inventato e chi lo testa purtroppo non sono io. Il sentire del pubblico cambia, però molto spesso il pubblico è diverso da quello che noi pensiamo. Cioè adesso noi stavamo criticando la pubblicità e lo facevamo tutti, lo facevo Oliverio Toscani, a volte lo faccio anch'io, e poi sentiamo in questo momento che agli Arcimboldi c'è un teatro pieno di ragazzi di 30 anni che sono disposti a stare 3 ore a guardare spot. Felice di guardare spot per 3 ore di seguito. Ma quello che penso, non voglio farmi interprete del pensiero altrui, è che non che non sia qualcosa di piacevole. Le cose piacevoli, le cose che ci rendono stupidi, sono le cose che ci fanno più male, sono quelle che ci piacciono di più. La passione ci rende stupidi, ma chi potrebbe rinunciare alla passione? L'alcol ci rende alcolisti, però fa piacere bere, ma anche per le cose più terrificanti c'è sempre un approccio piacevole. Sei d'accordo, Oliviero? Ma anche domenica mattina ci saranno i campi pieni di cacciatori, che forse sono di più dei maniaci della pubblicità, quindi non è che quei quattro, alla fine veramente siamo di provincia. In Francia si divertivano nella pubblicità 20 anni fa, adesso siamo arrivati noi che siamo il paese meno creativo d'Europa, fra l'altro. E qual è il motivo secondo te, Oliviero, perché siamo i meno creativi d'Europa? Siamo i meno creativi per varie ragioni, per ragione di educazione, perché siamo dei mammoni, dovremmo essere forse più orfani, dovremmo avere più coraggio, siamo un popolo inaffidabile che non ha un grande senso dell'humor, soprattutto dell'autoironia. Non abbiamo coraggio, insomma, non abbiamo coraggio, e soprattutto i nostri imprenditori escono dalla Bocconi, e io penso che questi Bocconi diventano capo ufficio pubblicità o di marketing delle aziende, e l'ultima cosa che sanno fare è la comunicazione. Basta guardare le loro fidanzate e le loro mogli, che sembrano pettinate come con le teste di abat-jour, sono tutti vestiti uguali, con le scarpe, con le frangette, i polsini aperti, l'orologio a destra, il Rolex normalmente, tutti uguali, tutti tristi, tutti imbecilli. Questo è un po' vero, guardando varie categorie di persone che hanno questa etichetta sulla testa di essere creativi, si vede che la propria creatività gli manca proprio nella loro costituzione, nel come si presentano. Il creativo medio milanese è riconoscibile ormai oggi anche, non so, dentro le metropolitane, negli uffici, a vendere le borsette per strada. Chiunque si vuole vestire da creativo ha già la divisa pronta, invece il creativo deve essere mimetizzato nell'aspetto esteriore ed esplosivo e dirompente nella sua azione. Marta Cagnola, visto che il tema dovrebbe essere quello dell'allegria, dell'ilarità, del divertirsi, tu la senti trapelare questa allegria, questo divertirsi dalla sequenza di spot che stanno guardando in sala? Guarda, sai che io non ho ancora visto gli spot iniziare. Beh, vedi facce sorridenti, gente no, che balla, che è felice. Secondo me si stanno scaldando perché stanno entrando in circolo i cioccolatini, che anch'io ho mangiato, confesso. Però volevo dirti che ho accanto a me una persona che prima avete citato, perché un ascoltatore ha detto: io guardo sempre un sito con tutte le pubblicità degli anni Ottanta. Ebbene, questo sito, che è famosissimo, ha non so quanti accessi, veramente tantissimi, si chiama spot80.it, e l'ha inventato non un quarantenne nostalgico, ma un ragazzino, che è Michele Logrippo, che è accanto a me. Michele, quanti anni hai? 27. Vedi, cioè Gianluca, lui questi spot da piccolo non li aveva visti. Non è manco sotto sospetto di essere influenzato da Claudio Baglione e Fabio Fazio, perché era troppo giovane quando andò in onda Anima Mia. Quindi è proprio una passione. Il retro degli anni Ottanta ti affascina? Beh sì, diciamo che ho iniziato da quando ero proprio piccolo a vedere la pubblicità, ero teledipendente da piccolo e avevo questa strana deviazione. Ma come te li immagini quegli anni? Che tu l'hai vissuto in età impossibile a sentirne il senso. Cos'è che ti affascina di quegli anni? Perché fra le varie categorie, fra i vari decenni epici, quello degli anni Ottanta è quello che in realtà, forse perché l'abbiamo visto, a noi sembrano tanto vicini ancora, che ha meno spunti di suggestione. Capirei gli anni 50, gli anni 60, brutti gli anni 70, terribili, tristissimi, funerei, mortiferi. Gli anni 80 mi sembrano tanto vicini, tanto simili agli anni che stiamo vivendo. Beh, sta tornando molto la moda degli anni 80, anzi forse è già tornata da tempo. Io no, che non è cambiato niente, ricordare... uguale agli anni 80 oggi, eh. Sì, sì, sicuramente. Io posso ricordarmi, non so, i miei ricordi televisivi sono quelli che più mi tornano in mente. Io guardavo la TV commerciale da drive-in audience, Striscia la notizia dei primi anni, e avevo questa tendenza a fermarmi quando andavano in onda gli spot pubblicitari e magari a cambiare canale quando riprendevano le trasmissioni, per vedere se c'erano altri spot pubblicitari altrove. Quindi Gianluca, chiaramente sai che Michele ha fatto questo sito praticamente da un certo punto di vista sono coloro che accedono al sito che gli fanno proprio le richieste. C'è un forum e la gente dice recuperami ti prego quello spot, ma in realtà sono proprio spot trovati nelle vecchie VHS. Cioè la certo, perché il riversamento da supporto non può essere altrimenti, allora non c'era la digitalizzazione. VHS, Video 2000, Betamax, formati tipici di quel periodo. Quindi questa opera di resumazione, ma questo dimostra che in realtà la pubblicità, che a noi fa tutti piacere, ci diverti, ci fa sentire, nel mio caso, fighi, anticonformisti, dissacratori a parlarne male, in realtà rappresenta il tessuto connettivo della memoria della nostra epoca. Noi racconteremo la nostra epoca attraverso gli spot pubblicitari. Può essere anche vero che in realtà inducono a mondi irreali, a consumi che dovrebbero dare felicità e non la danno, ilarità che in realtà non fa sorridere nessuno, però raccontano il mondo, forse attraverso i desideri realizzabili dell'umanità viene raccontata l'umanità. Io penso che nelle teche della memoria dei decenni successivi, che forse non faremo nemmeno tempo a vedere, il mondo sarà raccontato attraverso la pubblicità. Tu in questo sei d'accordo, Oliviero? Ah, sicuramente, ma sai, è raccontato anche attraverso le grandi tragedie umane, insomma. Ti ho detto, un giorno ci sarà un processo di Norimberga della pubblicità. Ma io spero di no, perché sai, i processi di Norimberga, per quanto sia... No, ma capisci che voglio dire... Sì, lo dici come metafora, sì. Io invece penso, guarda, in questo... Penso che sarà riscoperto... Bianco, dai, ma che imbroglio! Beh, guarda, ma anche tanta poesia romantica su cui ci siamo consumati gli occhi a forza di cavalline storne equivaleva al mulino bianco. Comunque è carabiniere. L'epica della nostra epoca, viviamo in questo tempo, non possiamo farci nulla e di questo dobbiamo nutrirci. Vabbè, ma quel tempo lì ha delle cose anche più interessanti del mulino bianco, dai, insomma. Ma non tutti hanno questa profondità. La pubblicità in fondo è un grande compensatore di immaginario, secondo me. Sai. Hooligans, è logico, ci sono i fanatici dappertutto. È chiaro che stasera lì all'Arcimboldi faranno vedere gli spot più divertenti, mentre le migliaia di spot imbecilli... Adesso ho ascoltato la vostra radio, non c'è stato uno spot alla radio bello. Una cosa tremenda la vostra pubblicità, però è quella che vi mantiene. Senza la pubblicità non avresti lo stipendio, i giornali chiuderebbero. Ma infatti io la benedico, non piacerà a te, ma evidentemente a qualcuno piace, a qualcuno in fondo piace sentire questa pubblicità. Sai, molte volte noi, almeno io parlo per me che casco molte volte in questo errore, abbiamo una sorta di visione snobistica dell'umanità, come se l'umanità avesse necessariamente bisogno di avere visioni raffinatissime dell'esistenza. L'umanità vive anche di cose semplici, di consumi semplici, e capire il gusto e il desiderio di vivere semplicemente la vita, secondo me è un grande strumento anche di azione intellettuale. Nicoletti, a me piacciono i tuoi innamoramenti, io mi ricordo gli Avatar, Second Life, mi ricordo che ci fu anche una discussione fra me e te, sei sempre in Second Life o è finito? No, è una cosa vecchissima, adesso c'è Facebook. Un po' Facebook. Sarà vecchissima anche fra un po'. Sì, ma io mi piace calcare, vivere e sperimentare fino a fondo. Anche ma quelli mi vengono piace, considerati più innamoramento. Sei un uomo di passione, ti innamori, la dai via facile, saresti la... Beh, quello la mi piacerebbe, ma... reale, tu, altro che pubblicità. Il mercato richiede sempre meno l'articolo. Andrea, sentiamo Andrea. Andrea, buongiorno. Buonasera, anzi. Buonasera. Io volevo rendere omaggio a uno slogan che secondo me qualsiasi copywriter avrebbe voluto scrivere. E chi l'ha scritto? Fortunatamente l'ha scritto mio nonno. Ah, bene. Poi vi dico chi era mio nonno. E lo slogan è: perché Galbani vuol dire fiducia. Io credo che sia un archetipo degli slogan mai scritti, perché oltre a sdoganare il prodotto della Galbani in quel momento, ha sdoganato tutta la pubblicità. Praticamente diceva: e la pubblicità vuol dire fiducia. Quello che voi sentite da noi deve infondere fiducia. Credo che sia lo slogan anche più ripetuto nella storia dei media italiani. Soprattutto permetteva molte volte delle risposte. La fiducia è una cosa seria, e Galbani vuol dire fiducia. Mi ricordo, era molto legato alla fiducia. Tu cosa ne dici, Paolo Napolitani? Abbiamo davanti una sarei curiosa una di persona sapere di gloriosa stirpe, ecco. No, di sapere chi era tuo nonno. Chi è tuo nonno? Sì, adesso lo spiego. Mio nonno era un giornalista che adesso è morto, che si è occupato tutta la vita di storia della gastronomia italiana, che era Massimo Alberini, e che in gioventù negli anni 50 era semplicemente l'ufficio stampa della Galbani, e mi raccontò che appunto in quegli anni c'era stato dei problemi su dei formaggi che andavano a male eccetera eccetera, e lui si inventò questa storia di uscire in pubblicità dicendo Galbani vuol dire fiducia. C'era l'unico formaggio che non sapeva di piedi, che andava bene, ecco. Esatto, che andava bene, non aveva questi problemi di batteri, di cose di questo genere. Siamo in un periodo post bellico, quindi magari l'industrializzazione delle case aree ancora non aveva raggiunto le migliori. Quindi affidare l'idea della fiducia, che è qualcosa di impalpabile e di difficilissima attribuzione, a un prodotto, lo ha consacrato comunque a qualcosa che rimane nel nostro DNA, che Galbani voglia dire fiducia. Esatto. Ma nello stesso tempo, essendo stato trasmesso, appunto, io credo forse il più trasmesso in assoluto nella storia della pubblicità, e io credo che tutti gli altri spot pubblicitari debbano a questo slogan la loro esistenza, nel senso che era un martellamento per dire guarda, anche se ti faccio pubblicità di un'altra cosa, ma siccome il messaggio pubblicitario porta fiducia, anche accompagnava la validità e la sostenibilità di tutti gli altri slogan. E credo, adesso non so se esiste una storia della pubblicità o qualcuno. Ma ne esisteranno tonnellate. Paola Napolitani. Credo che stiano comunque riutilizzandolo, Galbani vuol dire fiducia. È stato rimesso. Beh, sai, era così e forte. Me ne viene in mente un altro, perché avevo lavorato, che però poi quell'azienda, che era un segno dei tempi, che era quello di Kraft, che era Kraft, cose buone dal mondo, che ci ricordiamo più o meno tutti, credo. E cosa voleva dire? Che in realtà, che voleva dire allora, cosa che adesso non si direbbe più, cose buone dal mondo, perché erano anche le sottilette, ma erano Philadelphia, erano le cose che venivano da fuori. C'è un'idea quando di proto-globalizzazione, quello, come qualcosa di sì, buono, sì. E quando quello che arrivava da fuori, come oggi il kebab, ecco, nelle nostre, diciamo, i gusti era, che vengono, è la cucina fusion, ecco. In realtà è tutta una sottiletta, alla fine quello era. Però per allora era un valore, oggi non si ripeterebbe più tanto. Ci fermiamo ancora un istante per mandare la nostra pubblicità, che non piace a Toscani, però a noi, ahimè, è città da vivere. Dalla ricerca Collistar, crema gel energizzante uomo. Antirughe, antifatica, antistress. Perfetta per l'uomo d'oggi. Crema gel energizzante uomo. Una carica di energia per il tuo viso. La trovi con le altre specialità uomo Collistar, le più vendute in profumeria. Collistar. Io guardo il risultato. Fantastico! Le immagini escono dalla TV! Sì, è 3D Emotion! La soluzione integrale expert per entrare alla grande nel mondo 3D con sconti fino a 500 euro! Come il kit TV 42 pollici 3D plasma Panasonic più lettore Blu-ray 3D più due occhiali 3D più film Avatar in 3D, che costa solo 1399 euro! Expert! La super promo 3D è solo da noi! Offerta valida nei punti vendita aderenti. Ma le immagini normali poi come le vedo? Super perfette anche quelle! Oggi festeggiamo insieme ai clienti poltrone sofà, gelato per tutti. Sabrina, ma che si festeggia? La nuova collezione Bijou. È tutta a metà prezzo. Sofà in tessuto a partire da 590 euro e con penisola da 790 euro. Ancora per poco però. Ah, per l'emozione mi è caduto il gelato. Tranquillo, i nostri sofà sono tutti sfoderabili e lavabili. Comunque non ti devi emozionare così perché ci sono io. Ma tra te il metà prezzo. Ah, è il metà prezzo. Poltrone sofà, beato chi se lo fa il sofà. Per informazioni poltronesofà.com. Benvenuto nel servizio clienti Quixa. Buongiorno, sono Giorgio Balzelli di Quixa, come posso aiutarla? Giorgio, te lo devo dire. Sì. Primo anno con Quixa mi sono trovato bene. Oh. Ho risparmiato e quando ho avuto bisogno ho parlato sempre con te. Bene, sono contento. E quindi rinnovo la polizza con noi? No. Come no? Ci hai creduto? Scegli anche tu Quixa, l'unica assicurazione auto online che ti offre un consulente personale dedicato e ti fa risparmiare. Fai un preventivo, vai sul sito quixa.it. Quixa, diretta, personale, AXA. Tutti pazzi per la notte dei publivori. Di chi è questo? Allora, di chi è questo? È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. È mio. abbiamo capito, questa è la pubblicità che destò tanto scandalo. Per primo sdoganò un oggetto innominabile che entrò negli spot pubblicitari, da allora ci fu una grande esplosione fantasiosa. Era il professor austero che nella classe del libro cuore trova un preservativo appoggiato sulla cattedra e dice: di chi è questo? E improvvisamente, come appunto potrebbe accadere nel libro cuore, tutti rivendicarono la paternità dell'innominabile e lubrico oggetto. Paolo Napolitani, ricordi questo passaggio fondamentale dello sdoganamento del profilattico in pubblicità? Non lo ricordo. No. Perché non gli davi, giustamente, non gli davi peso. Non lo ricordo, esatto. La gente normale non gli dava peso. Non lo ricordo. Erano i bigotti che si infiammarono per questa cosa qua. Anche perché la pubblicità non è così distaccata dalla realtà. E quando fu fatto, cominciava a diventare il profilattico una cosa di cui bisognava parlare. Necessario. Poi ci fu lo spot, penso fu prima, dell'alone viola dell'AIDS, che fu anche motivo di allarme qualcuno forte. Qualcuno l'ha criticato, qualcuno no, però non credo, come si diceva, come qualcuno diceva prima, che la pubblicità sia così distaccata dalla realtà, perché non è vero. La segue in modo parallelo. Sentiamo Beatrice da Milano. Beatrice. Sì, buonasera. Buonasera, io chiamo perché mi sento in parte coinvolta, lavoro in un'agenzia di pubblicità e quello che diceva la Paola Napolitani in qualche maniera lo trovo molto vero, anche quello che ha detto Oliviero Toscani poco fa. Oliviero Toscani è un polemista, deve per forza fare polemica. Ma sicuramente. Come io sono rompiscatole normalmente, ognuno fa il suo mestiere. Però è vero che con la nascita e con lo sviluppo degli istituti di ricerca, di questa volontà di testare, ritestare, ritestare le campagne, si ammazza la creatività, perché purtroppo un consumatore non è in grado di giudicare a priori attraverso dei disegni o qualcosa una pubblicità e quanto gli potrà piacere. Io sono abbastanza convinta che quando poi vengono sottoposti a delle pubblicità che noi vediamo magari dall'estero, vediamo nei festival eccetera, poi dicono: ah, che bella, anche se è dissacrante, anche se è qualcosa che può dare un po' fastidio, può dare delle pruderie, ma fin tanto che la si testa verrà sempre e comunque cassata. A me è capitato di prendere un brief per una campagna nel luglio del 2008 e siamo andati on air ad agosto del 2010. Quindi c'è questo spostamento temporale rispetto al momento in cui si produce la creatività, che si immagina che venga fatta su degli stimoli tratti dalla realtà, dalla concretezza, dal clima che si respira. Se va dopo tantissimo tempo, il rischio è che arrivi come un surgelato messo fuori dal frigorifero e poi infilato dentro, arriva che ormai è deteriorata. E questo è un po' il senso, Paola Napolitani, della sì, tua collega. Sì, quello che diceva lei, non è deteriorata, per l'amor del cielo. No, anche no, perché non mi permetterei mai. Noi, no, nel senso che si parla del prodotto. Sta un po' distantio. È sempre più distaccata. E poi soprattutto il terrore di un creativo in quel periodo è: magari la mia è un'idea nuova e che trovo molto bella, e nel frattempo qualcun altro la fa e la manda in onda prima di me. Ma qualcuno ci ha chiesto prima: esiste letteratura sulla storia della pubblicità? Abbiamo al telefono Alberto De Martini. Alberto De Martini, buonasera. Buonasera. Amministratore delegato di Red Cell, ma autore del manuale della pubblicità su internet. E poi tutta un'altra serie di importantissimi libri sulla pubblicità che qui non sto a dire. Sei d'accordo con quello che stiamo dicendo in questo momento? Che in realtà esiste un sistema di creazione, di formazione, di testatura, di testaggio dello spot pubblicitario che la fa un po' allontanare da questo immaginario pregnante che invece rimane attaccato, vedi, alla classica e vecchia pubblicità? Ma sì, intanto la classica vecchia pubblicità poi quando nasce un po' come nascono quelle di adesso, non è che te ne accorgi subito, no? Poi dopo anni ci sono cose che rimangono nella memoria per qualche motivo, però è chiaro che il problema della medietà della pubblicità è dovuto proprio forse a un pregiudizio iniziale, professionale anche, che un po' tutti, devo dire, noi dell'ambiente condividiamo, cioè quello di non voler mai pestare i piedi a qualcuno. Quando si parlava dei test pubblicitari, per esempio, una cosa caratteristica è che normalmente tra 3-4 idee che si testano, quella che poi viene mandata in onda non è quella che ha preso molti 4 e molti 10, è quella che ha preso tutti 6. Questo è, secondo me, il motivo per cui alla fine si vede un po' una melassa pubblicitaria. perché non ci si schiera mai. Ecco, per me la cosa... Non si vuole rischiare, come questo accade in tutta la creatività, accade oggi nella letteratura, accade nella produzione della fiction televisiva, accade nei programmi televisivi, che non c'è un programma che esce da uno schema. Perché nasce il format? Perché nessuno vuole rischiare, si va sul sicuro, quello lo vede tanta gente, lo guardano tante casalinghe, tanti pensionati, tanti vecchi giovani, quindi perfettamente adeguato. Però in realtà si dice che la pubblicità segue la realtà, in realtà non è proprio così, perché invece la realtà è schierata, cioè se poi si va a vedere cos'è la realtà vera delle persone, basta guardare, vabbè, quello che succede in politica, ma poi quello che succede nelle famiglie, quello che succede nei giovani. Stiamo vivendo un momento che non esiste nulla di più virulento, fantasmagorico, pantagruelico e boccaccesco della politica, e la pubblicità ancora si mette i braghettoni, mi sembra ridicolo. Esatto, cioè non si schiera mai la pubblicità, questa è una caratteristica, lo dico da pubblicitario, quindi non sono quello come Toscani che critica la pubblicità così sic et simpliciter, come se fosse fuori lui che è un pubblicitario a tutti gli effetti. Però la cosa fantastica della pubblicità è come i mostri della fantascienza, più li tiri cannonate più si ingrossano. Qual è il segreto del mostro che viene dal pianeta alieno? Che più gli uomini lanciano le bombe atomiche più lui si rinforza, la pubblicità sì. Più se ne parla male e più vuol dire che funziona. Ma infatti poi si è autoalimentata la pubblicità nel tempo, cioè attraverso questo schema di medietà per cui non si dà mai fastidio a nessuno, non si trasgredisce mai oltre un certo limite, non ci si schiera mai, non si appartiene mai a questa o quella categoria, ma si cerca di strizzare l'occhio un po' a tutte. A mano che è andata avanti, poi la pubblicità si è creata un suo consenso generalizzato, che è quello che poi ci fa dire, lo dico da consumatore questa volta, da spettatore, che vogliamo bene alla pubblicità, perché alla fine in mezzo a tutte queste violenze, guerre, schieramenti, lotte eccetera, poi alla fine si entra in questa specie di limbo che in qualche modo è anche rassicurante, dice vabbè, allora non c'è solo i buoni, i cattivi, quelli che ammazzano, quelli che muoiono. Ma sei d'accordo su quello che dico io, radicalizzando, che in realtà il racconto epico della contemporaneità passa attraverso la pubblicità? Mica è detto che sia mai esistita un'Elena di Troia e una guerra pluridecennale che tanti lutti addusse agli Achei, però noi ci crediamo, in quello vediamo che il mondo classico lo vediamo rappresentato alle panzane raccontate da qualche cieco errante. Però oggi la pubblicità in realtà racconta la nostra epoca, anche nei propri desideri frustrati. Sì, però ecco che lì non bisogna esagerare, anche questo fatto di dire siccome si testa dopo 2 anni la pubblicità è vecchia, ma non è mica poi così vero, proprio perché si cerca di stare un po' in bilico nella realtà e di non dare né torto né ragione a troppi. Una cosa per esempio che fa molta paura alla pubblicità è la tendenza, no? Che invece per certi altri aspetti, nel cinema, nello spettacolo, nella comicità eccetera, è cavalcata, l'attualità, il momento. Se la pubblicità cavalca la tendenza, in realtà è una pubblicità non efficace. Scusa, devo dare un attimo qualcosa in pasto e Publivori, perché sennò hanno i morsi della fame e non sono contenti. Pizzette! Pizzettine Catarì! Qual è il vostro segreto? Se ho fame, me la fate passare. Se non ho fame, me la fate venire. Pizzette Catarì! Calmano la fame! Stuzzicano l'appetito! Pizzette Catarì! Ora ho capito! Dunque, la pizza Catarì fu una svolta epocale nelle famiglie italiane. La pizza, prima che la facevano le mamme, no? Prendere il lievito, farlo crescere, girarlo con la sfoglia, prendere il pomodoro, prendere la mozzarella, metterlo nel forno alla giusta gradazione, non veniva mai bene come quella che si mangiava in pizzeria. La pizza Catarì la pigliavi, la infilavi dentro, era meravigliosa. Paola Napolitani, perché hai avuto un sussulto a sentire le pizzette Catarì? Perché ero in quell'agenzia quando la facevano ed ero proprio agli inizi. Credo che anche Alberto inediti su questa era McNerson. Ed era un creativo, un signore che noi stimavamo tantissimo, che aveva inventato questa cosa, pizzette, pizzettine, qual è il vostro segreto? Che poi non era la vera pizza, le pizzette erano quelle più piccole. No, erano dei biscotti con sopra un sapore di pizza. Sì, quelli che oggi si comprano normalmente dai fornai, erano fatte in maniera un po' più... Si chiamava Maestri e la persona che lui usava era un comico, che adesso purtroppo mi sfugge il nome, ma comunque era... Sentiamo Ermelindo d'Avellino, Ermelindo. Ermelino D'Avellino. Premessa, io sono lieto e onorato di poter intervenire e di salutare anche il maestro Toscano. L'onore è tutto nostro. Si figuri. Non so quello che è intervenuto il signore che è intervenuto prima, lui è un creativo sicuramente. Sicuramente. Perché la pubblicità segue la tendenza. No, ha detto di essere attento a non seguire la tendenza, perché diventa un effetto controproducente, così almeno l'ho intesa. Diceva che la deve un attimino assecondare. Se la pubblicità segue la tendenza, non è più pubblicità. È un'altra questione. Mi spiego meglio. Io intervenivo per questo, mi fa piacere ci sia anche Toscani. Nel 1984 non c'è più adesso, comunque la sentirà da casa, perfetto, nella solitudine del suo lettuccio. Ci sono due due episodi, uno è un 6x3 che fece Toscani per Benetton e un altro è una pubblicità televisiva che rompono lo schema, lì è la rivoluzione, l'anno zero. Quella di Toscani sono i due cuori di autopsia umani messi sul tavolo dell'obitorio in cui si diceva cuore bianco, cuore nero, che erano uguali, erano bellissime, era proprio, io aspettavo che uscivano i manifesti 6x3 per Toscani perché quello rendeva una rottura col passato. Ma certo, è un altro meraviglioso che iniziò a promuovere se stesso senza promuovere se stesso come prodotto, quindi lì inizia un altro tipo di pubblicità, è la prima serie di Barilla, se non mi sbaglio, di testa, il cui spot durava più di un minuto e solo alla fine, dopo che si erano viste macchine, vestiti, se non mi sbaglio una cabina della SIT allora, una centrale dell'Enel, l'audio doveva essere una Mercedes. Si capiva quale fosse il palco. Scusa, Paolo Napolitani. No, per correttezza era di Gavino San. Di Gavino San. Sì, sì. E Andrea Concato, grande copyright. Ecco, qual era la caratteristica di questa pubblicità che ha così colpito il nostro ascoltatore? Ma intanto aveva un tempo dilatato e quindi già questo sorprendeva perché eravamo tutti costretti nei 30 secondi. È stato anche un ritorno. Parla Alberto De Martini, ricordo perché si è messo in questo momento in comunicazione. Beh, intanto è stato un po' un ritorno al passato in quel momento, cioè era una cosa molto avanti, ma come spesso accade anche perché si collegava a un passato che era carosello, perché i tempi della pubblicità erano diventati dal 77 in poi i 30 secondi e poi anche i 15 come vediamo adesso. E invece lì improvvisamente un'azienda ha il coraggio di fare un film di 2 minuti, dove tra l'altro il prodotto, come un po' succedeva in Carosella, però in Carosella ma con altro stile completamente diverso dal punto di vista narrativo, il prodotto arrivava negli ultimi 3 secondi, quando il protagonista arrivato a casa si mordeva un pacchetto di spaghetti. E quindi naturalmente era una cosa di intrattenimento. Ecco, la vera novità di quel film lì fu che la pubblicità cercava di ritornare poi ad essere intrattenimento come l'era stata Carosello. E poi ci sono stati altri esempi grandi come Nike, come altre marche che hanno anche adesso le telefonie, per quanto disprezzate da Toscani. Però sono piccoli momenti di intrattenimento molto vicini a quello che era Carosello una volta. Senti un attimo, Marta Cagnola, dalla tua postazione. Allora voi non avete idea di quello che sta succedendo qua dentro. Tu chiamaci, diccelo, noi pendiamo dalle tue labbra. Tutti gli spot durano 30 secondi e sono tutti 30 secondi esilaranti, quindi qua dentro ogni 30 secondi si scatena una risata, un applauso o un'ovazione. Quindi diciamo questo forse no. Ah, ecco, sentite un po' di risata anche per questo c'è. E veramente sono davvero divertenti. Vabbè, ecco, vedi, sento il sottofondo risata. Quindi diciamo il piacere, l'acme arriva ogni 30 secondi. Che sono tempi accettabili vista la media nazionale. No, ma effettivamente capisco perché quest'anno la notte di Publivori è un pochino più corta. Perché fosse 5 ore come di consueto, 5 ore con una risata ogni 30 secondi è insostenibile. Ecco, però c'è un altro elemento. Diventa elemento spettacolare se collettivamente usufruita. Come quando, capiterà a te, capita a tutti, ci guardiamo in famiglia quei filmacci che mai oseremmo confessare che li guardiamo in certe televisioni recondite. Guardiamo i B-movie con Alvaro Vitali. Però visti insieme diventa presente un grande spettacolo. Questo gusto fantastico di cavalcare anche quello che normalmente non consideriamo all'altezza delle nostre aspettative estetiche. Da un segnale che mi sta facendo appunto un collega al di là del vetro, capisco che adesso immancabilmente devo mandare le informazioni del traffico. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. Buonasera, per lavori c'è coda sull'autosole tra Incisa e Valdarno in direzione Roma e sulla 8 Milano-Varese tra Origio Ovest e Castellanza in direzione di Varese. Per operazioni doganali si incontra coda sulla 9 Lenate Como-Chiasso in direzione Svizzera tra Como, Montelimpino e Chiasso. Attenzione alla nebbia sulla 6 Torino-Savona tra Fossano e Millesimo con visibilità 80 metri. Più fitta la nebbia sulla 26 di Trafori, 60 metri la visibilità tra Gemme e Lago Maggiore. Nebbia in banchi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era e Vicarello e lungo la diramazione per Pisa. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora. Promo 24. Sempre di più in rete le persone cercano e condividono informazioni sulle aziende e i loro prodotti. Per questo è necessario avere un'ottima reputazione e credibilità anche online. About You aiuta a migliorare e monitorare l'identità e la reputazione, partendo dal web per raggiungere ogni giorno milioni di persone. About You guida nell'ascolto di quello che si dice nei blog, forum, social media e portali. Aiuta a capire come gli utenti percepiscono l'azienda e i suoi prodotti. Grazie ad una consulenza mirata a costruire una solida identità online, About You permette alle aziende di essere competitive anche in rete. About You è parte di TSV, strategie per il marketing online. Informazioni aboutyou.it. Tutti pazzi per la notte dei Publivori. Novità? C'è un bel regalo, ma... Un altro forno. Ma se ce l'ho già? Ma non lo usi mai. Questo è sforna tutto. Termostato, timer, selezione cotture e grande novità, luce interna. Sforna tutto. Ma sei sicuro? Oh, fa solo toast, pizzette. Pizzette? Come queste? Mm-hmm. È per tutta la famiglia. Non ti chini più. E col timer si spegne da solo. E poi lo pulisco io. Si pulisce da solo. Sforna tutto. Mm, che cuoco, papà! Oggi anche con piastra elettrica per arrostire e cucinare. Sforna tutto e solo De Longhi. Lo sforna tutto è una sorta di succedaneo alla cucina che oggi rappresenta la parte più lussuosa della casa. C'ha questo fornettino aggiuntivo che permetteva anche al papà di scaldare le pizzettine e fare felice i propri figli. Stiamo parlando della Notte Publivori, siamo nell'ultima parte della Notte Publivori. Vorrei sentire prima Andrea da Milano, che aspetta da tanto tempo. Andrea, buonasera. Lei ha una sua teoria sui consumi? Guardi, legati no, alla pubblicità. Nicoletti, buonasera a tutti, ringrazio tutti. Mi ha rubato le parole l'ultima del fornetto De Longhi, perché volevo aggiungere la famosa battuta pizzette come queste, che era una pubblicità che era nata sull'onda delle pizzette Catarì, dell'uomo che aveva preparato la e questo la su quale riflessione la induce questo no, diciamo, questo questa collazione fra no, pizzette mi perdoni, questo era un piccolo richiamo che mi avete rubato di qualche secondo, me l'ha fatto mica il suo, appartiene all'umanità, è un bene dell'umanità. No, però era un piccolo richiamo. Io sono un ex bocconiano, cioè un bocconiano. Quelli che ha preso un pochino in giro Toscani prima. No, ma lo ringrazio. Io ho telefonato per ringraziare Toscani, perché mi ha veramente, all'epoca, quando io ho fatto la Bocconi negli anni 80, sono laureato nel 89, era l'epoca dei pubblicitari, della finanza, tutte quelle cose lì che poi sono esplose. E parecchi miei amici erano nella finanza. Era anche un personaggio di Drive-In, il bocconiano. Adesso mi viene in mente che era il comico. Bravissimo. Bastano, io sono riuscito forse a evitarlo. Io sono riuscito a evitare tutto quello perché mio papà, prima di passare a miglior vita, mi ha detto: guarda, se studi economia devi sapere cos'è un bilancio. E quindi l'ha mandata a farsi le ossa. Mi ha mandato a fare dell'altro. Il mio intervento, ho telefonato per dire questo. La pubblicità io l'ho capita quando ho visto per la prima volta, credo a metà degli anni 80, uno spot della Mercedes. La Mercedes non era mai entrata massimamente nella pubblicità e credo che fosse un periodo in cui la Mercedes era in crisi proprio di modelli, di tecnologia. E quindi? E questa cosa qui mi ha fatto riflettere sul fatto che la pubblicità era una grandissima illusione portata a livelli popolari. Beh, ma le illusioni ci piacciono. Io non ho nulla contro chi ci dà illusioni e ci regala illusioni. Non voglio la mia vita è stata costellata di seminatori, soprattutto seminatrici di illusioni, a cui sono tanto grato. Sì, non che la voglia segare, però ho i tempi un po' stretti. Okay, grazie. Alberto De Martini, che ho presentato come autore del manuale della pubblicità su internet, però devo dire una cosa che probabilmente avrei dovuto evitare di dire. In realtà la grande operazione pubblicitaria tu l'hai fatta sul tuo ultimo manuale indispensabile che non deve mancare in ogni famiglia, perché gli uomini sono stronzi e le donne rompicoglioni, che apparve sulla copertina di Chi in mano a Veronica Lario e che in realtà fu un lancio fantastico per il tuo libro. Sì, un rilancio, perché... Ma eravate d'accordo o una botta di culo, come si suol dire? Una botta di culo clamorosa, infatti essendo io pubblicitario tutti hanno pensato fosse un'operazione orchestrata, invece purtroppo... La tua collega qui davanti a me è ancora convinta che in realtà sia orchestrata. No, non è vero, giuro. Potrei addurre una prova inconfutabile per chi ha buon senso, cioè quello era un libro Mondadori, vi pare che Veronica Lario adesso voglia fare pubblicità alla Mondadori? Cioè, solo questo, però è talmente forte il messaggio che conteneva in sé... Vabbè, senti, però com'è il passaggio è abbastanza drastico. In realtà capisco uno può avere le sue passioni e le sue improvvise fulminazioni. Come sei improvvisamente entrato poi nella manualistica che sancisce, determina e stabilisce i corretti rapporti tra sessi, che oggi è molto fiorente? Ma perché in realtà sono, diciamo, un piccolo, dico molto, molto modesto, sono un piccolo filosofo, nel senso che anche nella pubblicità ho scritto questi libri che sono un po' una filosofia della pubblicità, cioè il filosofo nel senso che mi piace ragionare, mi piace usare la logica e cercare di capire. Quindi mi dai ragione fenomeni. Che esista una metafisica che sottende ogni spot pubblicitario, che in realtà è una lettura in trasparenza dei sensi sottili che muovono l'umanità? Ma non c'è nessun dubbio, ma d'altra parte chi non ha una sensibilità sulle cose normali, terrene della vita di tutti i giorni non può fare pubblicitario, quindi per me è un collegamento molto semplice, cioè occupandomi di gente da quando sono nato, non meno come pubblicitario ma anche prima fortunatamente, ecco dei ragionamenti sono cominciati a nascere sui rapporti tra uomini e donna e ho capito che la chiave di lettura di tutta la diversità e di tutte le difficoltà di relazione tra i due sessi sta in questi aggettivi. Anche perché, perché la gente consuma? Consuma per facilitare, fluidificare, lubrificare i rapporti fra due sessi, quindi noi viviamo, lavoriamo, ci affatichiamo, ci spezziamo le reni, ci facciamo problemi perché in realtà lo scopo unico è propagare la nostra specie. Però volevo fare una domanda a un tuo collega, Silvio Saffirio, è in collegamento? Sì. Silvio Saffirio ha scritto Gli anni ruggenti e la pubblicità, i grandi creativi raccontano in Star Libri. Corrisponde a realtà quello che noi stiamo dicendo? Stiamo facendo dei voli straordinari per giustificarci il fatto che abbiamo mazzolato la pubblicità fino adesso. Tu che hai analizzato le figure dei grandi pubblicitari, sono dei filosofi, dei vate della contemporaneità o in realtà sono degli astuti confezionatori di merce? Ma io non lo sapevo prima, io sono uno di loro, ma mi sono ovviamente autoescluso da questa narrazione. Poi sinceramente rompo le palle per 450 pagine perché attraverso il libro, però non ho potuto autointervistarmi, l'ho fatto in quella forma in diretta. Vabbè, come tu avessi fatto una sorta di geografia, è il santo del giorno, i grandi maestri della pubblicità, quelli che hanno confezionato i nostri sogni, le nostre speranze, le nostre illusioni. Sì, quelli per me che lo sono e poi ne mancano altri che non ho potuto mettere in un libro che sarebbe diventato troppo consistente. Ma non è tanto, è una storia della pubblicità attraverso le vite dei pubblicitari. Beh, le biografie già è un inizio, è il primo passaggio verso la santificazione. Una volta che riconosceremo le loro virtù eroiche, li considereremo i veri artefici del nostro immaginario. O esagero? No, io ho conosciuto colleghi nella storia mia abbastanza lunga del mio mestiere, mi sono piaciuti, non abbiamo avuto vicende difficili, sgomitamenti, qualcuno non lo conoscevo neppure, l'ho conosciuto poi soltanto dopo e ho parlato con loro e mi sono fatto raccontare le loro vicende personali. Solo un attimo, Maurizio da Pavia, perché ci apre proprio in conclusione un nuovo scenario. Cos'è che ti ha colpito della pubblicità di una console per videogiochi? Dunque, a parte la console per videogiochi, volevo dire un'altra cosa prima. Sì, ma abbiamo tre minuti, la dice la svelta, sennò devo segarti. Ognuno di noi è vissuto in un periodo, no? Sì, in un periodo dove ha vissuto tutta la pubblicità del periodo, perché tutti guardavamo la televisione, dagli anni 60 in avanti, no? Quindi, secondo me è molto più semplice il discorso. È un discorso che tu vivi in funzione di quello che sei costretto a vedere, perché la televisione te la impongono tutti. Beh, cioè, te la vedi da bambino in avanti. Ti ricordi più, sicuramente, quello che vedevi da bambino in avanti. Comunque, sta console è eccezionale perché è una pubblicità che hanno fatto qualche anno fa, dopodiché l'hanno tolta dal video, penso quasi subito, perché deve essere stata contestata pesantemente. Lo sai perché? Te lo dico subito, perché è una passione per la videoludica, perché ancora esiste un pregiudizio nel nostro paese così forte che considera il videogioco come la scaturigine di ogni male. Ho sentito dire un povero idiota una volta in televisione che addirittura il delitto di Sara Scazzi derivava dal fatto che c'erano videogiochi violenti. Marta Cagnola, a te la conclusione. Eccoci qua, io volevo concludere insieme a una persona che se li è guardati tutti questi spot e che è Andrea Corti. Andrea, quanti ne hai visti e quanto ti hanno fatto ridere di questi spot? Ma ne avrò visti almeno 500 di spot e credo che praticamente tutti mi hanno fatto ridere, in modo diverso ma tutti. E ce ne sono anche di molto sporcaccioni, lo possiamo dire? Ma sì, perché all'estero si osa un po' di più utilizzare spot per comunicare. Qual è la cosa più zozza che hai visto, Marta? Lubrificanti o altre cose di questo genere. Dici sporcaccioni, cosa immaginiamo? Ci sono un sacco di spot di preservativi e sono davvero esilaranti. Che c'è di zozza, una cosa pulita. No, pulitissimi, no, ho detto spruccaccioni, era così un po' un eufemismo, ma sono veramente più divertenti e qua la gente, come senti, si sta scatenando. Vabbè, data l'ora, date le presenze, data la collega travestita da cioccolatino, dato l'accenno al giusto presidio perché l'amore sia protetto e sicuro, vi lascio felicemente, ringraziando naturalmente Paola Napolitano e ringraziando Marta Cagnola, che ancora sarà nel Cimboldi. Sancta Sanctorum della pubblicità al Teatro Arcimboldi. Direi questa notte Publibori per noi può essere conclusa, perlomeno può essere conclusa la radio, e spero che di non aver creato troppi danni a chi si sta preoccupando in questo momento. Abbiamo fatto un grande elogio alla pubblicità, ma il bello della pubblicità è proprio questo, che se ne può parlare male, e più se ne parla male, più resta radicalmente impressa nelle nostre coscienze. Alla prossima. Fatto. Già fatto. Pic Indolor, la siringa con ago indolore che si usa una sola volta. Leggere attentamente le avvertenze. Pic Indolor, la siringa, niente male.